L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non vi spaventate, non vi spaventate, non è che c'è Masini ospite, eh? Non è che c'è Marco Masini ospite che dice vaffanculo, non lo diciamo noi, lo dice una persona che usa poche parolacce nella vita, l'ex ministro della difesa Mario Mauro, uomo di Comunione e Liberazione, uomo molto pio, il quale dice voglio mandare proprio così questa mattina ad Agorà a fare in culo tutti quelli che parlano male dell'Europa, perché l'Europa è la nostra salvezza. Lei si ritiene un estremista moderato? Io la devo ringraziare per questa opportunità che mi dà di mostrare il mio estremismo questa mattina. Oh, eccoci qua, siamo qui per questo. Vorrei infatti mandare a fare in culo tutti quelli che ce l'hanno con l'Europa, che sento blaterare cose oscene. Bene, lei ci ha stupito, forse sì. Per la prima volta. Vabbè, è una controfigura, perché vorrei anche dire qualcosa che però giustifichi le cose che dico. Offro al signor Mauro, Mario Mauro, ex ministro della difesa, ex parlamentare europeo, ex berlusconiano passato con Monti, ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Vabbè, insomma, un sacco di cose. Subito una preda, ed è il nostro amico, quello grassoccio. Lo sai che è veramente grasso? Cioè, è veramente ingrassato da... Ma l'ho visto l'altro giorno, ha una pancia che straborda. Ma perché devi dare questo... Ma facesse una cura dimagrante. No, ma questo glielo consiglio, ma non lo voglio... Non è una questione lombrosiana. Davvero ha bisogno di una cura dimagrante il signor Bianconi di Forza Italia. Cioè, ha davvero bisogno di una cura dimagrante. Io ma dico io con... fossi Bianconi ti prenderei a calci del sedere. No, perché, ma come ti permetti a... Ma perché, scusa, non ho capito. Non si può dire che uno è un politico... Ma se uno a te dicesse che sei magro come un chiodo. Beh, tirato, lo dicano pure, qual è il problema? Lo dicano pure. Quasi malato. Ma lo dicano pure, qual è il problema? Lo dicano. Ma sui difetti, sulle questioni fisiche. Ma no, ma è che è un difetto essere grassi. Io sto ma dicendo... Ma hai detto che è un ciccione maledetto. No, non ho detto nessun maledetto. Ho detto l'onorevole... Non è vero. L'onorevole Bianconi. Ho detto semplicemente... Che poi non è grasso. È grassissimo, ti assicuro, è molto grasso. È un po' sovrappeso. No, è molto, grasso. Molto grasso. Molto ma grasso. Ma Spencer era grasso. Vabbè, comunque, Bianconi dice, senti questa cosa qui, siamo sotto la trilaterale. A me è simpatico Bianconi. Ma a me è anche simpaticissimo, non vuole venire qui perché... Non condivido nulla. Senti questa cosa qui, siamo sotto la trilaterale, la trilaterale. Questo non lo dice nessuno in questo paese. Noi siamo sotto trilaterale. Le risulta Colaninno? Sì, lei non lo chieda a Colaninno, lo chieda a Google. Lei apre, scrive membri italiani della Trilateral Commission e ci trova Monti, Letta, la Guidi, il generale Ramponi, Tronchetti Provera, regia verifica. Questi sono il mondo che ci sta sopra. Il mondo che ci sta sopra, la trilateral, dice Bianconi. Guardate che sono cose incredibili, Senti qua, Padoan, ministro dell'economia, messo da chi vuole impoverire gli italiani e ingrassare le banche. Veramente l'unico ingrassato è lui, il signor Bianconi. L'unico grasso è lui. Padoan è un uomo che viene da lontano, che prende gli ordini da Renne, un economista, è un po' peggio di Saccomanni, è un po' peggio di Monti, cioè rappresenta tutto quel mondo che ci ha rovinato e per il quale veniva attaccato il governo Letta, è stimato da quegli ambienti che ci vogliono morti, cioè da quelli che hanno messo insieme tutto questo ambaradan per impoverire l'Italia e ingrassare le banche. Lui è un piolo fondamentale di questo giro, come Saccomanni lo era, ma molto meno di questo. Beh ragazzi, è incredibile, Bianconi, Forza Italia che si appella alla trilateral, quelli che vogliono ingrassare le banche, impoverire gli italiani. Sembra un grillino qualunque. Ma poi lui tutto sembra tranne che povero, c'ha una panza così, basta questa cosa della pancia, sennò veramente. Che c'entra? No, no, non c'entra, però. Guarda che già io l'ho visto l'altro ieri alla camera. Era incazzato come una bestia con noi. Vuoi sapere esattamente cosa mi ha detto? Cosa ti ha detto, dai? Cosa ti ha detto? Si può dire una parolaccia? Sì, si può dire, beh, lo sai, no? Che si può ha dire. Ha detto che siamo due stronzi al servizio. Sì, sì. Ha detto, sì, io ho detto scusami Bianconi, quando vieni da noi, ad altissima voce del Transatlantico, ha detto a te e a quell'altro stronzo, perché ha detto i coglioni vanno sempre in coppia, parlando di me e sì, te. Sì, capito? Sì. Al soldo dell'antipolitica che vuole sfasciare tutto, sì. Non mi vengo a far coglionare da voi. Io godo, più mi dice di no, più mi dice di no Bianconi, più mi dicono di no e no, più godo, no. E più io godo. Lo voglio Bianconi, lo voglio. No, ma io pure lo vorrei, però che devo fare? Fate schifo. Vabbè, sì, lasciatevelo dire. Vabbè, adesso facciamo schifo. Sentiamo Forchielli, va. Io voglio capire una cosa, ma Forchielli, pure Forchielli. Cioè, se noi siamo fatti in un certo modo, Forchielli, come è fatto? Cioè, ma ne vogliamo parlare? È numero uno, eh. È numero uno. Senti questa cosa qui, l'Italia è come un figlio drogato. Ma poi ha ragione, eh. L'Italia è come un figlio drogato. L'Italia è come un figlio drogato. Più soldi gli dai e più ne spende, accumuli i debiti e non succede un cazzo. Per cui allora no, alle imprese sì, ai lavoratori sì, però direttamente senza l'intermediazione dello Stato. Ha ragione al 100%, però amici miei, sta succedendo una cosa in politica in queste ore, una cosa ridicola, vergognosa, una roba che non mi aspettavo, anzi in realtà non mi stupisco, perché Renzi più passano i giorni più mi sembra impantanato nel politicume, proprio quello più antico, non da prima Repubblica, peggio, peggio ancora. Cioè adesso pare che abbia trovato un accordo per Berlusconi per approvare la legge elettorale, l'Italicum, ma solo alla Camera. Cioè noi sostanzialmente non possiamo votare in questo modo, hai capito? Perché ci sarebbero due leggi elettorali diverse alla Camera e al Senato. Entrerà in vigore forse tra un anno, prima la riforma del Senato, un pasticcio, un casino, sì, la gente non ha capito. Ma Berlusconi lo sta coglionando. Vabbè, al di là del fatto che lo sta coglionando Berlusconi, lascia perdere questo. No, giustamente fa il suo gioco. A un certo punto la gente tanto non ha capito nulla, la gente non capisce la gente niente. Non capisce niente di queste cose, prima la Camera, poi il Senato. La gente non capisce. No, è semplice, basta dire che questo è un modo per andare a votare, è molto semplice. Certo. Basta così, è sempre spiegato. Però c'è qualcuno che propone Berlusconi come carta da giocarsi in Ucraina, perché è amico di Putin. Lara Comi, Parlamento Europeo. Renzi usi la carta dell'amicizia Putin-Berlusconi. Amici miei, forse la soluzione della vicenda ucraina è qui. Io ritengo che Renzi debba usare una carta che è quella dell'amicizia storica tra Berlusconi e Putin per iniziare un dialogo. Sono altrettanto convinta che al popolo ucraino debba essere data la libertà di poter decidere del proprio futuro. Io però mi sono scocciato di queste chiacchiere della politica e voglio interpellare una persona che ha realizzato un documentario sull'omosessualità molto importante, ha fatto coming out a tarda età, non lo voglio offendere per questa tarda età, ma l'età è l'età. È un regista, si chiama Gianni Amelio, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo, caro Amelio? Andiamo benissimo, grazie. Esce il 6 marzo questo documentario, felice chi è diverso. Felice chi è diverso, giusto? Felice chi è diverso, certo. Racconta. Ma lei non è diverso però, maestro Amelio, scusa. Eh beh no, certo che non si sente diverso, immagino, no? Come? Certo che non si sente diverso, no? Ma io non ho inventato questo titolo, è tratto da una poesia, comincio da capo, cioè Sandro Penna, che ha scritto delle cose stupende, sublimi, sull'argomento, mi ha dato spunto per raccontare una storia, diciamo, delle storie, e Felice chi è diverso è l'inizio proprio di questa poesia straordinaria, dove si dice felice chi è diverso e essendo egli diverso, sì. Ma guai a chi è diverso essendo egli comune. E avvicini meglio la bocca alla cornetta, perché altrimenti sentiamo la voce che viene e che va a meglio. Allora, le volevo chiedere una cosa: ma lei perché ha fatto coming out sulla sua omosessualità a 69 anni e non prima? Perché non ne sentiva il bisogno? Perché non è necessario fare coming out? Per quale motivo? Le risulta che io abbia fatto coming out a 69 anni? Io l'ho fatto a 6 mesi. Cioè, in che senso, scusi? A 6 mesi di vita, cioè nel senso, quando ho cominciato a dire le primissime parole, forse ho detto frocio come prima cosa, invece di dire mamma o papà, non lo so, insomma, no? Cioè, io non capisco questa storia del coming out come se fosse una rivelazione dall'alto, non lo so, cioè io ho detto un giorno, sì, dovrebbero fare coming out le persone che nascondono qualcosa. Sì, no, ma non c'è dubbio, quelli, i ladri, lei ha detto, no? Cioè, no, ma a parte i ladri, disonesti. Io non ho mai nascosto niente di me, soprattutto perché credo che sia dovere di una persona la cui vita è in qualche modo pubblica, no? Sì. E essere sinceri, essere onesti, essere puliti. Non invece nascondere scheletri da qualche parte, negli armadi, sotto i letti, cioè, a parte il fatto che poi non trovo che ci sia niente di disdicevole nell'avere una tendenza sessuale. No, ma figuriamoci, quello no. Sia. Allora, io sinceramente non mi aspettavo nemmeno che ci fossero quei titoli, quelle cose, il coraggio. Beh, è la prima. No, ma io non parlo di coraggio assolutamente, figuri. Io penso... io penso una cosa, penso che comunque era la prima volta che lei ne parlava pubblicamente di questa cosa qui, o sbaglio, cioè dei suoi gusti sessuali, chiamiamoli così. Quando qualcuno o pubblicamente o non pubblicamente me l'ha chiesto, io ho risposto alla domanda. Certo, non vado in giro con un cartello perché non mi sembra il caso. Cioè, talmente la considero una cosa normale che riguarda la persona, da dire che sulla mia persona ci sono cose molto più importanti da notare o da rivelare che non l'omosessualità. Ma assolutamente, io sono prima di tutto una persona, prima di tutto qualcuno, appunto, prima si parlava di politica, che ha le sue idee, che paga le tasse, come si dice. Voglio dire, a proposito, lei si sente un uomo di sinistra, Amelio? Io sono di ultra sinistra. No, ancora di sinistra, di sinistra, dico? No, io sono molto più a sinistra della sinistra, assolutamente, da sempre. Cioè, ancora comunista? Per cui sono molto critico. Ma non credo comunista, ma è diverso perché il comunismo storico è stato qualcosa che mi ha disturbato nella storia. E che significa più a sinistra della sinistra? Posso chiedere a me? Ma sono a sinistra anche culturalmente, ideologicamente, da sempre, ed essere di sinistra secondo me è non essere compromessi con quelli che di sinistra non sono. E beh, Renzi allora Renzi come lo considera? Ma io Renzi lo considero il male minore in questo momento, preciso. Cioè, io credo che siamo talmente messi male che dovremmo almeno aspettare di vedere che cosa accade. Però certo i primi segnali non sono incoraggianti. E il fatto che parli con Berlusconi, secondo lei è una roba di realpolitik che bisogna farla? Oppure... Voglio dire, io con Berlusconi non parlerei, questo per dirlo, insomma, chiaramente. Cioè, a pranzo non ci andrebbe mai lei con Berlusconi, le farebbe un po' schifo. Nemmeno a cena, insomma. Ce le fa un po' schifo, diciamo la verità, le fa un po' schifo antropologicamente Berlusconi. Ma io sono diverso, ecco, appunto, lui è diverso e siamo due diversi. Vabbè, siete due esseri umani, pure lo riconosco come essere umano, insomma. Ma io lo riconosco come essere umano, però lo riconosco anche come un politico che non ha le mie idee, sulle quali io discuto e ho il diritto di discutere, vero? Insomma, come discutere. Ma sì, figuriamoci, ma lo considero... Non l'ho mai votato e mai lo voterei e mai lo voterò, ecco, questo è... per dirlo proprio in modo molto, molto ma molto preciso. Certo, senta meglio, ma lei, poi c'è il traffico, ma a lei interesserebbe il matrimonio? Il matrimonio tra omosessuali, oppure è un dibattito che si apre? Ma io, guardi, io credo che la libertà vera sia non quella di imporre il matrimonio omosessuale, ma quello di far scegliere agli omosessuali se vogliono o no sposarsi. È un po' come la storia del divorzio, no? E la posizione di destra qual era? Non bisogna avere il divorzio perché sennò divorziano tutti. Ma non è vero. Divorzia chi ha necessità. No, non c'è dubbio. Cioè, io sono d'accordo con gli omosessuali che vogliono sposarsi. Poi se io voglio non sposarmi sono affari miei, però è chiaro. Ma non credo che lo farebbe ormai, no? Cioè, anche se dal... Ma io l'ho fatto 20.000 volte e lo farei ancora se avessi voglia di farlo. In realtà il problema è un altro, il problema è la libertà che bisogna dare a chi ha voglia e necessità di fare determinate cose senza disturbare gli altri. Renzo, ci sei? Siamo con Gianni Amelio, regista, autore di un documentario felice che è diverso sull'omosessualità. Volevo chiedere al maestro Amelio, apposta questo, se ha donato una copia del documentario al signor Giovanardi. Ah, che ne pensi di Giovanardi? Le fa schifo? È orripilante secondo lei, signor, quando che parla? Che penso di, scusi? Giovanardi, lo conosce Giovanardi? Non ha notizie di Giovanardi? In questo momento, diciamo, pensando ad altro, quindi diciamo che mi cogli impreparato. Ecco. Vabbè, sa chi è Giovanardi, no? Sì, però non so chi ha fatto stamattina, ieri, avantieri, non lo so. No, ma insomma le sue posizioni sulle coppie gay sono risapute, insomma, come figura politica. Come ma, dire, come... ma non è il solo, ma non è il cioè solo. L'Italia, cioè, secondo lei è omofoba? Cioè l'Italia è profondamente... È particolarmente difficile, credo, per la vita degli individui, delle persone, al di là del loro orientamento. No, ma per, proprio sui, su, per i gay. L'orientamento sessuale è una parte della persona. Sì. Il problema vero è invece la possibilità della vita di una persona libera. Sì. Ecco, vabbè, quello, chi si intromette nella libertà della persona è qualcuno che in modo sbaglia e andrebbe. Senta, ma perché è così difficile? Lei ha scritto per un calabrese, per esempio, fare quello che si chiama, ripeto ancora una volta, coming out, cioè dichiarare di essere gay, dichiarare di essere frocio. Perché per un calabrese è così complicato? Lei ha detto, l'ha detto. Perché, ma io non l'ho mai detta questa cosa, né trovo che sia così complicato, proprio no. Beh, lei ha detto, c'è una sola regione in Italia in cui nessuno si dichiara gay, è la Calabria, ovviamente. No, dunque, c'è una cosa che riguarda il mio lavoro, vale a dire che io ho cercato persone che avessero voglia di parlare nel mio documentario. Sì. In Calabria non le ho trovate, ecco, le ho trovate in tutte le regioni italiane, ma non questo, in Calabria. Questo perché secondo lei? Intanto è la sua regione, per cui. Ma perché probabilmente c'è un'educazione particolare nelle famiglie, si è ancora legati a degli schemi anche di comportamento che fanno paura, a me fanno paura, però generano delle cose che sono delle cose tristi per le persone che sono dentro il problema. Senta, ma il Papa, secondo lei, è più avanti di certa sinistra, anche dello stesso PD, nella questione del Madrid? Io credo che questo Papa sì. È più avanti della sinistra italiana nella questione dei gay, per esempio. Io credo che il Papa sarebbe questo Papa. Sì, questo. Ma Francesco, se non fosse Papa, farebbe delle cose ancora più importanti di quelle che sta facendo, secondo me. Bisognerebbe dargli altre cariche, oltre quella che ha, cioè, che la carica suprema. Certo, per i diritti dei gay, per esempio, per la questione tante volte discussa, eccetera. Ma io credo che lui pensi a cose ancora più alte. Pensi ad una libertà, come dicevo, dell'individuo e della persona, perché ha detto una frase molto forte, ha detto: chi sono io per giudicare un omosessuale? È chiaro che deve fare un altro passo, deve cancellare dal catechismo quello che c'è scritto sull'omosessualità, che è una malattia. Ecco, per esempio, questo passo ancora lo aspettiamo, deve farlo, lo farà, io spero, perché i suoi predecessori hanno fatto niente, mentre invece lui intanto ha cominciato. Sento una cosa, lei che è regista, ha fatto tanti film, cioè, pensa che l'Oscar sia un premio vero oppure una grande buffonata? Adesso utilizzo un termine provocatorio, ovviamente, no? Ma no, una grande buffonata è una cosa cattiva, non lo so, cioè è un premio che l'industria dà a se stessa, è un po' un grande organismo che in qualche modo si autocelebra, e questo è un fatto importante, nel senso che... Sì, ma c'è, vuol dire, magari, è un valore il film che viene premiato, cioè lei sente che è stato premiato il cinema italiano oppure no, oppure un'altra roba? Io penso che sia stato premiato Sorrentino, non il cinema italiano. Sorrentino ha fatto un film e ha fatto chissà quali sforzi per poterlo fare, qualcuno gli ha dato credito giustamente, ha vinto, ha avuto quello che voleva, sì. Però adesso a dire che è il cinema italiano che vince mi sembra esagerato, è Sorrentino che ha vinto. Anche per merito di Berlusconi, dice qualcuno, perché è prodotto da Berlusconi il film. Cioè... Ma non lo so, c'entra anche, credo, la Medusa, Medusa è di Berlusconi. Beh, c'entra soprattutto però... la Medusa. No, ma scusami. Io credo che, come dire, peculia non olet, come si dice quella roba lì, insomma, no? Quella frase latina. Lei lo farebbe un film con Medusa, se già non l'ha fatto? Io non l'ho mai fatto un film con Medusa, perché non me l'hanno mai chiesto, però è probabile che se me l'avessero chiesto sì. e avessi creduto nella forza del mio film, avrei preso i soldi dove li trovavo, credo. Anche col demone Berlusconi. Anche con Berlusconi. Vabbè. Ma non so, io dovrei trovarmi nella situazione per poi poter rispondere. Diciamo che non sono così, come si dice, puro e angelico da dire io non mi sporco le mani. No, di fronte alla possibilità di fare un film nel quale uno crede, con la libertà che poi il denaro ti dà, perché poi il denaro ti fa fare il film come vuoi tu, ecco, Sorrentino ha giustamente fatto il suo film e non credo che ci siano stati intralci di natura diversa. Però mi sembra di capire che lei non è tra quelli che fa del trionfalismo per questa vittoria della grande. Guardi, c'è una cosa, guarda, c'è una cosa molto molto precisa che taglia la testa al toro, cioè io sono stato all'Oscar una volta, più o meno quando avevo l'età di Sorrentino, e io non sono andato proprio. Ma non perché? E perché? No, ma non ci sono andato perché magari sapeva di non vincere. Voglio altre cose dalla vita che non una serata a Los Angeles. E perché perché la statuetta per lei che cos'è? Come, scusa? Quella statuetta per lei che cos'è? La statuetta è un mezzo di potere, come una spada. Tu usi per difenderti quando qualcuno, per esempio, ti butta in faccia un copione. Tu gli mostri la statuetta e quello cambia idea, nel senso. Cioè, ma ha a che fare con il valore del film? Cioè, oppure. Ha a che fare con la possibilità di fare questo lavoro in modo anche più libero, se vogliamo. Cioè, è una garanzia per il dopo. È una garanzia per il dopo. Esattamente, esattamente. Io credo che serva molto. E serve la politica per vincerlo? Cioè la politica, in senso, servono pressioni per vincerlo oppure no? Non sono pressioni, serve un'organizzazione, una vera e propria organizzazione, così come c'è quando si produce un film. La produzione di un film non finisce quando il film diciamo arriva nelle sale, ma deve continuare. Quindi un produttore intelligente film lo promuove fino in fondo, e quindi i produttori di Sorrentino sono stati straordinariamente. In due parole, a lei è piaciuto o no? Sì o no? Ma certo, certo, assolutamente, se no non ne staremmo a parlare. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Caro Parenzo, oggi al Senato, dico solo questo, c'erano sedute uno a fianco all'altra, una senatrice del Partito Democratico che si chiama Spilabotte, una senatrice di Forza Italia che si chiama Alessandra Mussolini. In mezzo, indovina chi c'era in mezzo? Come faccio a indovinare che era? Vabbè, non lo sai fortuna. Perché come al solito non hai letto, non ti sei informato, la solita roba. È la trans Efe Ball, la nostra amica Efe Ball. Allora, io voglio dire una cosa, hanno presentato una legge sulla legalizzazione della prostituzione, no? Secondo loro si guadagnerebbe lo Stato. Ma è una gran notizia che no, ma è andata al Senato. C'è la signora Efe Ball che qui ha fatto quello che ha fatto, che qui in questo studio dove sono adesso si è spogliata. Ma no, ho capito, ma con tutti i pregiudicati che per ci sono fare lì. Una provocazione a favore della legalizzazione della prostituzione, ripeto, si è spogliata per fare una provocazione a favore della legalizzazione della prostituzione. La signora Efe Ball è andata al Senato dicendo. Ma ho capito, ma il Senato è pieno di criminali. Cosa aspetta, sembra? Ma che vuol dire? Ma no, ma è possibile che non capisci niente? Ma sei veramente un cretino. Ma sei veramente un cretino. Non vuol dire nulla, non voglio dire questo. Se non sai, taci. si è detto oggi al Senato, si è detto, no, non c'è nessuna polemica, si è detto oggi al Senato. No, stai zitto. Si è detto oggi che lo Stato guadagnerebbe fino a 10 miliardi di euro legalizzando la prostituzione. Non lo so, comunque è una grandissima iniziativa questa qua, anche se non si aprirebbero i bordelli. Attenzione, perché la Lega Nord invece vuole aprire i bordelli, io sono favorevole ai bordelli. Semplicemente sì, aprirebbe alla prostituzione professionale, cioè dire uno fa la prostituta a casa sua, diciamo, no? Paga le tasse, eccetera, eccetera. Dettagli. L'autonomia dei sex workers. Beh, non so, dettagli, sono cose importanti. Cioè uno non può, per esempio, guadagnare sul sesso, no? Non ci può essere un imprenditore che apre dei bordelli, secondo sì, questa legge. Sì, perché se no si ricade della figura del magnaccia. Chi l'ha detto? Perché ci stanno i magnacci in Svizzera? Cioè, ognuno quelli... deve fare... lo Stato, evidentemente, diciamo, la filosofia di questa cosa qui è quella di dire ognuno è una cosa IVA. Diversa, benissimo, è una cosa diversa rispetto ai bordelli. Io sono favorevole ai bordelli, ma sono favorevole a tutte e due le cose. Se uno vuole lavorare da solo, lavora da solo. Se uno vuole investire invece e fare un bordello, può fare tranquillamente un bordello. No, però ti dirò un'altra cosa, che la vicenda di Efebal mi ha portato a fare una considerazione. Lo sai che io considero quel meraviglioso spogliarello verificatosi qui una cosa altamente poetica. Lo voglio dire, ecco, altamente poetica. Ecco la cretinata delle 19:20. Altamente poetica. Ma cosa c'è di poetico di quella porcheria di sta signora? No. Poesia pura. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Parla Putin, non invaderemo l'Ucraina ma proteggeremo gli interessi dei russi nel paese. A Kiev c'è stato un golpe, sanzioni contro di noi, i danni saranno reciproci. A Kiev il segretario di Stato americano John Kerry parla in piazza, promette aiuti. I russi che vivono in Crimea e nell'est del paese. Ucraina, voglio stare con Mosca. Accordo raggiunto tra PD e Forza Italia sulla legge elettorale, riforma solo per la Camera dei Deputati. Berlusconi, grande disappunto per le difficoltà di Renzi. Renzi commenta da Tunisi, quello di oggi sulla legge elettorale è un importante passo in avanti. Il Senato non ha la sua legge elettorale, tanto sarà abolito. Faranno nascere un gruppo autonomo i senatori espulsi dal Movimento 5 Stelle. Pizzarotti conferma l'incontro dei sindaci sconfessato da Grillo. Scoperta in Lombardia la Banca d'Italia dell''Ndrangheta. Riciclava clandestinamente il denaro di imprenditori evasori per un giro di affari di milioni di euro. 34 gli arresti. Dalle antiche mura di Volterra ai palazzi del centro di Palermo, viaggio del TG3 nell'Italia che crolla, tra impalcature, fango e macerie da dopoguerra. Allora Renzi diceva 17 febbraio, non 100 anni fa, a febbraio approviamo l'italicum. Adesso dice che verrà approvato l'italicum, ma solo alla Camera, e comunque siamo già a marzo. Va bene, glielo possiamo concedere, no? Gli possiamo concedere una settimana di ritardo? Sì, glielo possiamo concedere. Però in realtà verrà approvato l'italicum, se verrà approvato poi, perché per adesso sono chiacchiere, solamente bisogna vedere quale italicum poi, se ci saranno altre modifiche. E comunque solo alla Camera. Questo significa, Renzi dice, tanto il Senato sarà abolito. Beh, scusa, ma se uno deve andare alle elezioni subito? Cioè, l'Italia deve essere libera di andare alle elezioni in qualsiasi momento. Non aspettare l'abolizione del Senato. Un pastrocchio per accontentare Alfano, ma anche Berlusconi dice di essere deluso un po' da Renzi, però alla fine sì all'approvazione alla Camera di questa legge. Beh, un pastrocchio per dare più vita e ossigeno al governo, altro che... Beh sì, certo, in ma parte questa così. È la ciccia. Beh. Renzi. La piattaforma con la quale discuteremo assieme alle forze politiche è quella che prevede entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali e elettorali da portare all'attenzione del Parlamento e da subito dopo. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a... Oh Giannino, voglio sentire Giannino sulla legge elettorale, eh. Inaccettabile questo compromesso assurdo a fare solamente la Camera perché bisogna aspettare l'abolizione del Senato. Un trucco, dai, un trucco per prenderci in giro, dai. Spero spero che abbiamo spiegato agli ascoltatori in termini piani e chiari che oltre agli grandi difetti che restano nell'impianto di legge elettorale per la Camera, la decisione di oggi di farla solo per la Camera e non per il Senato è inaccettabile! Io mi risento ogni tanto Lucci che dice alla Boschi sei una figa strepitosa, sei una figa strepitosa, perché sì, perché mi piace, sì, perché non mi piace la volgarità, mi piace Lucci, mettitelo in testa, mi piace Lucci. Ma io mi devo mettere in testa. Ma smettila. Non capisci un cazzo. Ecco, appunto. Perché non ti piace mai una cosa? Non è volgarità, è Lucci, hai capito o no? Non ti piace mai una cosa? E ieri gli hai anche leccato il culo, non gli hai detto manco in faccia quello che pensavi. No, allora, sempre detto questo. Che secondo me hai esagerato. Ha esagerato, è Lucci, fa Lucci da 20 anni, dai, smettiamola. Ma che mondo è? Io non lecco il culo da nessuno, me ne fotto. Il vero successo se sta sudando la guancia è la nuova bellissima ministra per i rapporti col Parlamento. Oh, Amarie, sei una figa strepitosa. Oggi ammazzate. Dai, oggi lascia. Ma perché ti hanno messo proprio ai rapporti col Parlamento? Ai rapporti con i membri del Parlamento? Come pensi adesso di cavare? Ah, davvero, scusa, c'hai ragione, oggi è una cosa esagerato. Però ti posso fare i miei complimenti. Grazie. Sei una strafiga. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Vabbè, risentiamo Mario Mauro, dai. Sentiamo Mario Mauro, ministro, ex ministro della difesa, che manda a fare in culo quelli. Lui manda a fare in culo, e poi se la prendono con noi. Mandano a fare in culo quelli che blaterano contro l'Europa. Lei si ritiene un estremista moderato? Io la devo ringraziare per questa opportunità che mi dà di mostrare il mio estremismo questa mattina. Oh, eccoci qua, siamo qui per questo. Vorrei infatti mandare a fare in culo tutti quelli che ce l'hanno con l'Europa, che sento blaterare cose oscene. Bene, lei ci ha stupito. Oh, c'è un signore che mi minaccia, che conosco molto bene, che in parte stimo per la sua libertà intellettuale, che si chiama Barnard, Paolo Barnard, che mi minaccia di cose terribili su Twitter. Mi riempie di improperi, di parolacce, non ti avvicinare. Ma che... tuo amico Noeuro. No, amico no, io non sono affatto Noeuro come dici tu, sono uno che riflette su tutto, anche sul Noeuro, anche sul no all'euro, perché non ho... Ma sei d'accordo o no alle sciocchezze che dice? No, quasi, non sono quasi mai d'accordo, soprattutto quando ne dice, quando dice cose del genere, l'euro progetto filo nazista per distruggere l'Europa. La catastrofe economica che sta inglobando l'Europa, distruggendo il Sud Europa, è un progetto di 70 anni che nasce con l'economista francese François Perroux, un filo nazista francese che si inventò la moneta unica. Monti studia queste cose, le sa perfettamente. L'euro è stato disegnato per arrivare alla distruzione del Sud Europa. Capito? Signor Barnard, se la prende con me, se la prende, mi vuole ammazzare, mi vuole menare, mi vuole picchiare. Come ammazzare? Ammazzare di botte. Paolo Barnard, lo abbraccio fortissimo, so che non parla sul serio, so che non parla, parla forse in un momento di scarsa lucidità. Paolo, provincia di Piacenza, buonasera. Buonasera, salve. Io volevo telefonarle a proposito di quello che ha dichiarato il regista Meglio, mi sembra, sì, no? All'inizio della trasmissione. Perché ha citato più volte, diciamo, ammira molto il Papa Francesco, e soprattutto questa frase che sono io per giudicare i gay. Io volevo un po' spiegare il contesto. No, non c'è nessun contesto da spiegare. Lei è d'accordo con quello che ha detto oppure no? Qui non c'è io da spiegare il contesto. Io non sono d'accordo con Amelio, ma anche non sono d'accordo con lei, e mi dispiace perché io la stimo. Ma d'accordo, perché non si può essere a favore. Io sono ad esempio sul matrimonio omosessuale, sono completamente contraria, perché si fa tanto parlare di libertà rispetto dei diritti, però il matrimonio omosessuale comporta la possibilità dell'adozione dei bambini, ma anche la possibilità dell'utero in affitto, cosa che già avviene in certi altri paesi dove queste leggi sono già state inserite. Si tratta di una forma di schiavitù moderna delle donne. Va bene Paola, però questa non è la sede per mettersi a discutere adesso in termini... No, è certo che della sede, perché io, se lei sponsorizza così, io sponsorizzo, sono d'accordo, ma è legittimo, è legittimo che lei non sia d'accordo, è legittimo che lei non sia d'accordo sul matrimonio. Ma ha approfondito il tema. No, ma non c'è niente da approfondire, io sono a favore. Non c'è niente da approfondire. D'accordo, e c'è da approfondire. Comunque l'ho approfondito, comunque l'ho approfondito, signora Paolo. Io sono a favore del matrimonio e dell'adozione. Sì, però siccome sono 19, 28 e 37 secondi, c'è gente che sta in macchina, che sta guidando, che si sta facendo due palle così, probabilmente viene dal lavoro. Adesso non ci possiamo mettere a parlare dei motivi per cui mi sono convinto che è meglio avere il matrimonio e l'adozione gay. Non credo che sia il caso, no? Allora, senta, parliamo di qualcos'altro. Meglio, a me ammira questa frase. Però lui, quando parla di Berlusconi o Giovanardi, non usa alcun rispetto, nel senso, la differenza tra un cristiano ma veramente ha usato grande rispetto. Cristiano è il fatto che la persona viene salvata, si dà un giudizio su magari un comportamento, un modo di fare o un atteggiamento, non sulla persona. Invece il signor Amelio fa esattamente il contrario. Grazie. Bestie. Zanzare, fanno male. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene. Amore. Secondo Gentile, che si è appena dimesso, come sapete, ieri da sottosegretario ai trasporti NCD, il complotto contro di lui nasce in Calabria, un complotto. Il complotto è partito dalla mia terra, la Calabria, che è una terra di complottisti e a volte usano metodi mafiosi per colpire le persone per bene. Io sono un incensurato, non sono stato mai indagato. Sono una persona specchiata e lo posso dire a testa alta, ma ho visto che dietro questa vicenda del giornale invece vi sono personaggi molto molto discutibili e molto inquietanti. Ma chi sarebbero poi questi personaggi discutibili e inquietanti? Comunque devo dire la verità, che alla fine ci sono due pesi e due misure su questa vicenda. Beh, scusami, per un gentile che si dimette, che paga per tutti senza neppure essere indagato, e tra l'altro se fosse indagato su me non si doveva dimettere lo stesso, restano sottosegretari senza nessun problema. Certo. Francesca Barracciu, accusata di peculato nell'inchiesta sui rimborsi spese del Consiglio regionale in Sardegna. Umberto Del Basso De Caro, indagato per i rimborsi del Consiglio regionale in Campania. Signor De Filippo, Rimborsopoli Lucana, Vito De Filippo. Filippo Bubbico, abuso d'ufficio, indagato per abuso d'ufficio. Ripeto, secondo me non si devono dimettere nemmeno, devono restare lì barricati. È una scelta precisa di Renzi. Però non me la spiego, questa differenza, non me la spiego. Rita da Milano. Buonasera. Buonasera, buonasera Rita, dica. Allora, io oggi ho avuto modo di vederla da vicino, perché pranzavamo nello stesso locale. Sì. E ho capito perché lei è così aggressivo. Sì. Aggressivo, ma io non l'ho vista in realtà, signora Rita. Con chi era? No, ovviamente lei non vede me, ma io vedo lei con gli anni, non conoscendo. Ma con chi era, no, non l'ho vista, nel senso che non riconosco nemmeno la voce, magari era seduta accanto a me. Ma non ci siamo parlati, ho visto Cruciani nel locale dove magari era seduta accanto a me e potevo riconoscere la voce. No, non ero seduta. Vabbè, riprendiamo questa ascoltatrice. Ma chi c'era a pranzo con lui? Dopo glielo chiedi. Ermanno, provincia di Modena. Ermanno, provincia di Modena. Allora, io volevo parlare di questa immigrazione, perché io vedo che dai dati dei giornali, che ne leggo parecchio, dalla televisione fino all'ultima riga, noi sappiamo quanto costano i pensionati, quanto costano gli esodati, quanto costano gli incidenti stradali, ma non mi si venga mai a dire cosa costa Lampedusa, cosa costa pattugliare dalla Marina Militare il Mar Mediterraneo. Vabbè, allora... cosa ci costano i centri di vino? No, non va bene, non va bene affatto. Io ho caduto nella Prima Guerra Mondiale. È stata la rovina della mia famiglia. Scusi. Qui l'Ucraina vuole venire in verso ovest, in Europa. Vabbè, siamo al delirio. Dentro tutti. Io non lo so questo paese dove fermalo abbia condizioni. No, lasciamolo andare. Tutti stanno bene fuori che gli italiani nel nostro paese. Ma veramente non è così. No, posso dire una cosa al pensionato? Sì, dilla. E adesso si alla vera. Ma che ne sai che è pensionato? Che ne sai che è pensionato? Lei è pensionato? No, lui l'ha detto. Vabbè, sono pensionato. E allora è pensionato, punto. Ma qual è l'amico? Ha detto che è uno stronzo. No, ma guardi, non sono mica uno di quelli che si lamenta, che si vanta, sa, di essere pensionato. Con i miei anni giusto per andare in pensione, io spero solo che ogni mese l'ente preposto mi paghi la pensione. Non sono uno di quelli che si vanta, che credi di essere chissà dove. Perché noi purtroppo questa pensione me la paghi mio figlio. Pensi come siamo messi bene. Vabbè. Comunque qui abbiamo divagato. No, abbiamo è lei divagato. Che ha divagato, non no, io. È lei che ha divagato. Noi non c'entriamo nulla. La signora Livia Turco mi rispose che fino a quando non si farà la divisione fra le risorse economiche Turco, ma non è più nulla la signora Turco, non è manco in Parlamento. Sì, no, d'accordo, ma siccome 10 anni fa parlai a radio, quando non Ermanno, penso, arrivederci, grazie. Rita, è tornata la signora Rita che ha pranzato con me. Con chi era a pranzo? E ride, che ride? Scusi. Perché ride? Mi fai ridere sta cosa. Allora, mio figlio è un grandissimo fan di Cruciani. Sì. Io dico, e mi ha diffidato, non toccarmi Cruciani, che è un mio grande amico. Sì. E dico, no, invece ve lo devo dire. Bene. Che Cruciani, secondo me, è aggressivo perché è brutto. Sì, sono brutto. Infatti, guardi, è universalmente riconosciuto, tra l'altro. È sperucchiato, è sperucino, è bruttarello. Ma perché non usciamo insieme, signorita? Vuole uscire con me, mio figlio adesso sarà arrabbiatissimo con me. Ma lei vuole uscire non con me? Non toccare i Cruciani. Dico, ma fammelo guardare bene. Ma lei è sposata? No. Non è sposata? Bruttino. Ma è single? È single? Sì. Beh, ottimo. Ma è proprio speluscetto. Beh, signora Rita, ma perché non usciamo insieme? Ma volentieri. Ottimo. Parenzo. Ma sai quanti punti acquisto con mio figlio se usciamo insieme, Cruciani? Beh, ma siamo al top qui, eh? Parenzo, sa. No, però vedo che la signora Rita ha detto che non gli piace, che sei brutto. Beh, tu però vuole uscire con me, scusa. Però, ma Parenzo, lei è bellissimo di fianco a Cruciani. Non si faccia capire, pensare con chi era pranzo, signora Rita? Cruciani, con chi era? No, questo non mi sembra giusto dirlo. Sono se dice così sembra che stavo con Al Capone, non lo so. Appunto, cioè. Sono sincera ma corretta, Cruciani. Va bene. Lei lo ammetterà. Ma era una donna o un uomo? O un non grande? Dico. Non dice parlo, nulla. Non si dice. Però scusi, signora, mi posso permettere di chiedere quanti anni ha? 56, ma sono molto bella. Beh, ottima questa cosa qua. Sai che parecchio amo molto no? Over 50. Ma io sono troppo bella per lei, Cruciani. Beh, adesso siamo calmi, eh. Adesso stiamo molto calmi. Adesso stiamo molto, molto calmi. Siamo molto, molto calmi. 56 è ottimo, stupendo. Cioè, stupendo. Beh. Ma sì, perché non ho più l'ansia di procreare. Sa tutte quelle menate che hanno le trentenni, e no? L'ansia di prestazione ce l'ha ancora? Questa ce l'avrà lei, Cruciani. Ma no, veramente non ho mai avuto l'ansia da prestazione. Allora, beh, io di ansie non ne ho in generale nella non vita, ansie, guarda. Non sono ansie. Un cuor contento. Beh, ottimo. Non ho ansie. Però non mi lascio a questo punto. No, però la inviterò a cena volentieri, signora Rita. Ma Topino, cosa mi ha detto quel Topino lì? Cos'è che dice? Ha detto che ci lascia. No, mi lascio solo io. Ma amore, Cruciani, sa quanto le voglio bene. A chi? A Parenzo? Lei è brutto. Parenzo. No, lei non li voglio bene. Il Parenzino mi piace tanto. Sì. Mi è un topolino. Porti anche lui a cena, dai. Porto anche lui, eh. Porta sì, anche dai, lui. Tutti e tre. Tutti e tre. Ma dicono a tutti e tre. Capito, Parenzo? Lo famo strano. Lo famo strano. Lo famo strano. Ma dai, signora, guarda, ho detto questo qua, gli dico che è brutto, chissà, mi mangia viva, invece l'ho presa anche bene. Beh, lo vede, cioè. Mio figlio mi dirà, vedi. Come si dice? Come si dice? Come si dice chi? Chi disprezza? Chi disprezza compra. Brava cara signora, io la inviterò volentieri a cena e si troverà molto bene. L'abbraccio fortissimo, Marco da Lucca. Marco? Passami il nano per favore, ci sono, passami il nano per favore. Nano sta qua, dimmi, dilli qualcosa. No, mi dispiace che oggi è in collegamento telefonico, come al solito non si capisce un cazzo, perché avevo fatto una cosa stavolta veramente, scusa Marco, però questa volta si capisce un po', devo dire la verità. Sì, molto meglio di tante altre volte, però vediamo un po', io avevo fatto una cosa specifica per lui, mi senti nano? Sì. Guarda, se il capo, se il boss mi dedica questi 30 secondi, vai, te li dedico, messaggio, vai. Messaggio promozionale a fini pubblicitari con inserimenti di dati reali. Sei un conduttore radiofonico di successo? La tua trasmissione sbaraglia la concorrenza e manda risultati su risultati. La tua posizione economica è invidiabile? Susciti invidia tra i colleghi, ammirazione tra chi ti ascolta e il plauso del tuo editore? Resistenza piena di soddisfazioni? Perché? Perché andare avanti così? È ora di dire basta, è ora di cambiare. Adatta anche tu Nano Parenzo. Con Nano Parenzo, successo, denaro, fame e ammirazione saranno solo un pallido e sbiadito ricordo. Adatta anche tu il Nano Parenzo, il simpatico robottino tutto fare, iperbonista, garantista, sempre corretto. Ci metterà solo pochi istanti a mandare in vacca la tua trasmissione. Parenzo non perde mai l'occasione di stemperare momenti splendidi, butta sempre H sul fuoco, ogni volta non dovrebbe. Dice solo banali ed esprime concetti ovvi, ma talmente tanto ovvi che li potrebbe capire persino Domenico Scilipoti. Il Nano Parenzo ha mille altri utilizzi. Attraversare le strisce sarà un gioco da ragazzo anche per l'ultima delle vecchie. Ci pensa lui, il nano buono. E allora su, cosa aspetti? Adatta anche tu un Nano Parenzo. Manda tutto a puttane, rovinati con le tue mani, distruggiti da solo con il Nano Parenzo. Il Nano Parenzo è un prodotto Boy Scout buoni, papile, può causare dissesti economici drammatici negli ascolti. Adottare solo da un pubblico di buoni, usare solo la fascia oraria 18:30-21. Bravo Marco. Marco da Roma. Ciao Marco, Marco da Roma. Buonasera, chi è il dottor Crociani? Sì, dimmi. Un po' lungo forse, ma simpatico. Come va? Tutto bene? Bene, dimmi, dai. Senta, si parla sempre delle stesse cose qui, noi la Zanzara ci piace perché insomma ci fa divertire, si parla sempre di Renzi, ci ha rotto un po' i coglioni questo Renzi, no? Non crede? Tanto a noi non ci cambia niente, Renzi o non Renzi, bisogna parlare un po' della patonza, è quella che fa girare il mondo. A me lo dice, come a me lo dice, no? A me la dice, guardi, vorrei parlare di figa ogni sera, cioè... Certo. Giustamente, ma Renzi, non Renzi. A me lo dice, dai, su. È giusto, no? Sono qui che mi mordo le labbra. A lei lo dico, io ascolto lei tutte le sere, si parla sempre di questa politica. No, va bene anche la politica, bisogna però, insomma, Sì, sono d'accordo, ma tanto a noi ci cambia poco, no? Quindi, voglio dire... È vero, che vuole che ti dica, Marco. Andiamo a Urbino, dai, Samuele? Pronto? Sì, dimmi. Maremma, ragazzi, e basta con sto Lucci, pigliarlo sempre in giro. In fondo che l'ha fatto? Ha detto che solo che la Maria Elena Boschi è una gran bella topa, che non è vero, è vero. Meglio sì. Di lei c'è solo, la Barrefaeli. Parenzo, tu la conosci la Barrefaeli, vabbè, adesso no? Non esageriamo, come no? Dai. Certo che la conosco. Da quella se ti piglia Parenzo devi stare attento, perché quella ti fa godere come un caparetto nano della barbacia quando Iacola fa beh, comunque ho chiamato per un'altra cosa. Che Sgarbi... Ma questo ha sbagliato l'attimo, probabilmente. Scusa, però Sgarbi è indistruttibile perché l'hanno escluso dalle primarie del Partito Democratico a Urbino. E lui che ha fatto? Ha fatto le primarie per i cazzi suoi. Praticamente ha messo insieme tutti i verdi e poi, staccandoli dal PD, opera già alquanto di più. Sì, però adesso noi adesso non è che possiamo andare a vedere, no? Il modo in cui Sgarbi si sta candidando a Urbino, che poi tra l'altro non sarà candidato. Sì, però, cioè... vedi, allora che cosa vuoi dire, Samuele? Cosa vuoi dire? Allora, la cosa che è impressionante, secondo me, che il voler escludere da parte della sinistra un individuo come Sgarbi, che porta un valore aggiunto a livello culturale, è un sintomo di una tara mentale che risale ai tempi di Peppone e Don Camillo, cioè quelli della sinistra italiana. Samuele, adie. Ieri Paolo Barnard, editorialista, pare che adesso sia stato escluso, ma noi non c'entriamo niente qui alla Zanzara, editorialista dell'Ultima Parola, della Gabbia, ha detto: tre zanzare per istigare la magistratura contro la mia lotta per salvezza del paese. Tre Come puntate. Tre zanzare? Cioè noi avremmo istigato, no, tre zanzare, tre puntate della Zanzara, forse, per istigare la magistratura contro la mia lotta per la salvezza del paese. Tre puntate. Sei sterco di cane, non mi incontrare avvisato. signor Paolo. Scusami, Bernard, dai, scusami, lui ce l'ha con te. Sì. Dovrebbe avercela anche con me, perché in questo io condivido. No, ma io non ho capito, non ho capito il motivo, cioè di una violenza pazzesca. Posso ripetere una cosa al signor Bernard? Dimmi, dimmi. Se uno, siccome in quel giorno libero, se uno dice che la Guardia di Finanza e la Polizia dovrebbero recarsi al Quirinale e fare sostanzialmente garantire... No, non ha detto questo, non ha detto questo, non ha detto questo. Ha detto che le forze dell'ordine dovrebbero la guardia di... No, ma non ha detto quello che dici tu, non ha detto di prendere d'assalto il Quirinale, dai, su, ha detto che dovrebbero... Ha detto che dovrebbero garantire la Costituzione, perché Napolitano la sta violando. Sì. Quindi, no? Questo ha detto, o sbaglio? Sì, sì. Dovrebbero ribellarsi, questo ha detto, sì, mi sbaglio? Sì, sì, sì. Ecco, io dove vive questo bar? Dove risiede? Non lo so, in Italia. Dove è stato compiuto il reato? A Milano, giusto? Ah, secondo te va arrestato, dunque? Ma io l'ho già detto, ma è inutile che me lo richiedi. Ah, sei tu allora che l'hai detto? Io l'ho detto. Ah, tu hai detto che Bernard va arrestato per... No, non va arrestato, va aperto un fascicolo. Va aperto un fascicolo, bene. No, arrestato, non posso... Ho capito, va aperto un fascicolo. Va aperto un fascicolo perché lui sta... Ho capito, ho capito, ho capito. Abbiamo con noi Gianfranco Rotondi, buonasera. Buonasera, salve. Allora, caro onorevole Rotondi, innanzitutto... È ancora in circolazione, Rotondi, bene? Ma come ancora in circolazione? Non capisco, no, sei impazzito. Sono contento, perché tanto che me lo sentivo... Ah, lo per questo, come no? Sono a casa, ma non ai domiciliari, perché sento che fate arrestare tutti, non vorrei finire anch'io nel mirino. No, per carità. Senta, io voglio innanzitutto chiedere una cosa. Qualche settimana fa l'ho vista su Sky TG24 sfoggiare un maglione. Ah, sì. Un maglione multicolor, un maglione che a mio parere in televisione è abbastanza agghiacciante. Signor Rotondi, ma mi ci può dire da dove viene quel maglione? Ma il maglione è un regalo delle mie figlie, pagato da me perché sono piccole, minorenni, e io sto al loro gusto. Poi non è una linea difensiva, perché piace anche a me. In quel momento ero a spasso, mi hanno chiamato, serviva un'intervista a volo, io sono come la monaca di Monza, interrogato, rispondo sempre, e quindi qualche volta capita che rispondo vestito come sono al momento, per stare al parco con le bambine. Dicevo, devo dire la verità. Cioè, ma non mi pento, perché non c'è mica un decalogo dei colori da sfoggiare in televisione, ognuno è com'è. No, per carità, no, assolutamente. Parenzo, vuoi iniziare tu con Rotondi? Perché Renzi vi sta fregando, anzi inizio io, Renzi vi sta fregando, fa il furbetto con questa storia della legge elettorale, prima la Camera, tanto il Senato sarà abolito, è una partita che sta vincendo Alfano oppure no, Rotondi? Ma io trovo che a Renzi vada dato un terzo interim, perché lui è capo del Partito Democratico, sì, presidente del Consiglio e allo Stato anche sindaco di Firenze. Ecco, una quarta carica, quella che forse si è meritato di più, è segretario di Forza Italia. Perché? Perché lui media tra Alfano e Berlusconi con l'aiuto di Verdini, quindi a tutti gli effetti fa il mestiere che era di Alfano, e lo fa meglio di Alfano, perché Alfano e Berlusconi non si parlano se non tramite Renzi e con l'aiuto di Verdini, quindi io trovo spettacolare questo fatto. Sì, però voglio dire, è abbastanza strano, io condivido... Il mestiere che Renzi fa meglio è il segretario di Forza Italia. Sì, no, d'accordo, al di là della sua ironia, che poi in realtà non è solo ironia, perché ci sono, come dire, dei riferimenti puntuali, però non c'è dubbio, Rotondi, che ha detto una cosa, con voi si era messo d'accordo per fare la riforma elettorale, che era Camera e Senato, e adesso la questione cambia, diciamo la verità, cioè, le cose sono cambiate. Io lo dico con ammirazione verso Renzi, perché proprio ai vostri microfoni ho detto una cosa che alcuni hanno interpretato come un'offesa. Cioè? Ho detto a suo tempo è un gran paraculo democristiano, ma io lo dico anche di me e di tutti i democristiani, quindi è un complimento, anzi è un complimento all'ennesima potenza. Cioè, secondo uno lei... come Renzi, sì, non c'è ontologicamente da fidarsi, perché lui comincia, essendo democristiano che si è iscritto proprio quando Forlani stava chiudendo la bottega, lui e Martinazzoli di corso, chiudete le tessere, via, chi c'è, questo è minorenne di Firenze, Renzi Matteo, ma sì, buttatelo dentro. Ecco, lui si ritrova democristiano così, penso che sia l'ultimo. Per caso. Ecco, quindi ha la quantità di furbizia di tutte le generazioni democristiane assorbite con una febbo unica e parte da quello. Poi ci sono 20 anni di Seconda Repubblica, Margherita, PD, è stato un divoratore seriale di padrini, dalla Bindi a Pistelli, per cui, a Rutelli, scusi, se li è fatti tutti. Però allora in questa vicenda della legge elettorale... Ahimè, siamo all'ultima puntata, si ritrova ad aver promesso a Berlusconi che le elezioni si faranno al più presto e ad Alfano che non si faranno mai. Appunto, e dunque? Cioè, gran paraculismo democristiano. Va avanti così, perché alla fine mi sembra che un compromesso lo abbiano trovato. È la prima volta che abbiamo una legge elettorale a tempo, perché si litiga se si debba approvare per usarla tra 12 mesi o tra 18, col Senato o senza. È un percorso che gli italiani, già è complicato andare a votare, complicato che si vota al comune in un modo, circoscrizione in un altro, regione in un altro. Poi alle politiche ci attento, ma qual è la legge elettorale in vigore? Uno ci vuole una laurea, perché il cittadino deve dire: c'è quella che adesso chiamano Porcellum, ma è mezza abrogata. Poi se si vota subito al Senato c'è quella che ha fatto la Corte Costituzionale, c'è quella di prima, meno gli sbarramenti più le preferenze, ma non si sa come si mettono. Alla Camera invece c'è quella che hanno fatto il segretario di Forza Italia Renzi, interim segretario del PD, presidente del Consiglio e sindaco di Firenze, che l'ha scritta con Verdini, lo sanno solo loro come funziona, ma più o meno è diversa dall'altra. Ora dite che io voglio buttarla in caciara o sfottere Renzi, ma vi ho descritto una paradossale ed elementare verità, e cioè che noi abbiamo una legge elettorale post datata come una cambiale, come un assegno. No, ma questa roba qui, scusi, lei lo dice per elogiare il paraculismo democristiano di Renzi oppure per dire... Esattamente, cioè voglio dire, qui non ci rendiamo conto che mentre tutti si chiedono chi frega Renzi, lui fa il sindaco, il capo del governo, il capo del PD, il commissario di Forza Italia, si è fatto un governo come ha voluto. Io lo dica chiaramente, un gran paraculo democristiano. Ecco, mi tolgo tanto di cappello. Però è un pasticcio, però diciamo la verità. Ne sono così convinto che provocando la risata grassa e crassa di tutta la rete mi sono candidato io a fare l'anti-Renzi, perché nessun altro può capire Renzi come chi ha dentro di sé il DNA della democrazia cristiana, gli anticorpi, i virus e gli antivirus democristiani. Parenzo, che vuoi dire? Un attimo, Rotondi, dimmi. Vorrei dare a Rotondi però una notizia, un commentino sapido dei suoi, no? Perché la notizia l'avrà vista di sicuro, dei giudici che hanno negato il permesso al Cavaliere di andare al congresso del PPE di Dublino. Cioè, vi dovete, si deve un po' rassegnare che l'ottimo Berlusca ormai è un leader che sta non ai domiciliari ma ai servizi sociali, e quindi non può girare l'Europa come tutti gli altri leader di partito, capito? Questo volevo puntualizzare nella giornata di oggi, perché facciamo il caso che Parenzo vada ai domiciliari. Beh, al tempo finalmente già c'è stato un giudice a Berlino, capita che lo arrestano e lo mandano ai domiciliari, e lui dirige una testata. È possibile, ed è prassi che ciò avvenga, credo che sì, non giuro che vi sia una legge apposita, ma certo vi è una prassi consolidata per cui il direttore di giornale che sconta una pena deve essere messo in condizione di andare a fare l'intervista, di presiedere la riunione di redazione. È una situazione che con buon senso, a maggior ragione, si può estendere a un leader politico. Vabbè, non è la stessa cosa, ai domiciliari, ai servizi sociali. Ma se è un leader politico nel quale si riconoscono milioni di italiani, un terzo dei direttori italiani, il buon senso vuole che il magistrato dica: siccome non c'è pericolo di fuga perché è scortato e ti ci mando dietro anche 10 poliziotti, che non se ne scappi, ma che vada a salutare la Merkel e dica che pensano i popolari italiani. Cioè, trovo surreale che si vieti a Berlusconi di partecipare. Cioè, secondo lei potrebbe andare a Berlino però scortato da 10 carabinieri. Lei è brutto, è stirucchiato. invecchiato, è speruscino, è bruttarello. Io voglio sentire ancora il nostro amico un po' cicciotto, l'onorevole Bianconi di Forza Italia, lo stesso partito di Rossiglio. Caro Bianconi, lei ci considera dei cialtroni, non vuole mai venire qui alla Zanzara? Ascolti Rotondi, si faccia dare un consiglio da Rotondi, venga alla Zanzara dove ci si diverte tantissimo, non si possono passare ogni tanto dei guai, però insomma lei sa gestire bene la comunicazione. Comunque, al di là di questo, il consiglio è davvero quello di fare una dieta, perché l'ho vista recentemente seduta su una poltrona, credo a Sky, un po' ingrassato, devo dire, un po' con un po' troppo ventre, cioè la pancia strabordava. Dunque le do un consiglio, ci sono tante persone, le posso dare anche qualche nome, brave in questo settore, che l'aiuteranno a perdere qualche chilo. Bianconi, che contro per esempio il ministro Guidi, lui parla di conflitto di interessi, io non ne posso più, però quando c'è uno di Forza Italia che parla di conflitto di interessi a proposito del ministro Guidi, no, questo non è possibile, dai. Abbiamo la Guidi che ogni delega che ha è un conflitto di interessi, in più è membro della Trilatera Commission. Che detto da lei che il conflitto di interessi, insomma, voi nel vostro partito non l'avete mai affrontato. Ma vede, più di tanto. Due torti non fanno una ragione. C'ha perfettamente ragione. Berlusconi prendeva i voti e poteva avere tutti i difetti del mondo, ma prendeva i voti. Questo non l'ha votato manco il Ciocca. Si è stata presentata neanche al consiglio di circoscrizione, neanche all'assemblea di condominio. Hai capito, Parenzo? Sì. Mi sembra come il bue che ha dato il cornuto all'asino. Però a Bianconi volevo dire questo. No, a Bianconi, a Rotondi. No, a Bianconi. Visto che volevi dire a Bianconi? No, visto che tu insisti su questa roba, che lui è un po', sarebbe un po' sovrappeso. Beh, scusi, Rotondi, lei lo vede in Parlamento, lo vede un po' sovrappeso per il suo collega Bianconi, no? Rotondi. Snello non è. Dai, io l'ho visto, no, veramente. No, voglio dire, non c'è bisogno di dargli un consiglio. Il signor Toti, che oggi è il plenipotenziario. No, ma guarda, Toti è a parte che è più alto. No, dunque, ma potrebbe andare nella stessa clinica, ma scusami, nella stessa clinica con quella tuta dove sono andati col Berlusca, no? Quindi non è che ha bisogno dei tuoi consigli. No, certo. Per carità, cioè, assolutamente. Senta Rotondi, dopo aver analizzato il paraculismo di Renzi, però c'è anche da dire che qui si usano due pesi e due misure, cioè Gentile non è indagato ed è stato costretto alle dimissioni, ci sono 3-4 indagati, per me non si dovrebbero dimettere manco per niente, nelle file del Partito Democratico, la Barracciu, De Caro, eccetera eccetera, che restano saldi al loro posto, cioè, qui c'è questo è sempre successo nella politica italiana. Io posso dire solo una cosa, che Gentile credo che sia una persona corretta e per bene, per come l'ho conosciuto. Lei non ci crede che abbia fatto pressioni lì per non far uscire il giornale? Naturalmente, c'ha il fisico del ruolo di uno che lo immagini al comitato provinciale del CCD di Casini di 20 anni fa, non alla Leopolda di Renzi. Beh, non c'è dubbio. Il limite di Renzi è che lui fa la Leopolda, fa lo strafigo, il fidanzato d'Italia e poi mette al governo Gentile. Gentile è una brava persona, ma è un'altra roba, no? Sai, Parenzo, devi sapere che Rotondi per l'ennesima volta pensa che ci saranno delle primarie del centrodestra e si è di nuovo candidato come leader del centrodestra. No, io questo problema l'ho superato. Se mi permettete, mi sono candidato e basta. Poi le primarie se le fanno, ci vado, se no mi candido. Ma ha parlato con Berlusconi di questa cosa? E come no, e ci mancherebbe. E che ha detto Berlusconi? Ma dovevo dire io, no, che cosa volevo fare al governo. Berlusconi, ma lui manco, c'è già stato. No, gli ha chiesto il permesso di candidarsi? Come si diceva una volta, chi è libero non chiede il permesso di esserlo. Vabbè, ma avrà detto qualcosa Berlusconi, non avrà detto fai bene, no, candida. Uno riceve la visita di un amico che dice: oh, ciao Silvio, sai, mi candido a guidare il governo. Oh, che bello, che dovevo, qualunque cosa diceva era compromettente, no? Perché magari io potevo uscire e vendermela. Mi ha detto sì, mi ha detto no, non mi ha detto niente, quindi scusami, ha solo preso atto di una intenzione che sicuramente comunico con lo stile sobrio e allegro ad un tempo che segna i nostri rapporti, ma sarà una cosa che faccio davvero, perché credo che vabbè, ci sia bisogno di normalizzare il centrodestra, cioè è secondo voi, sì, vabbè, sarà un po' ridicolo che uno con quei maglioni si candidi a guidare no, il governo. No, ma non è per i maglioni. Ma no, non è per i maglioni. A me farebbe ridere di più che in una coalizione che sta al primo posto nei sondaggi non c'è uno che alza il ditino e dice: io il volante sono pronto a prenderlo, perché qui siamo tutti in grado. Ma quale coalizione? Non esiste ancora. Di formare un governo. Ma non esiste ancora questa coalizione. Un Renzi, un Letta, nel centrodestra. Ci sono tante persone capaci, brave, ma non ci provano. Ma senta, il suo si è già immaginato una sua squadra di governo, un suo governo ombra rotondo? No, io presenterò il governo ombra, credo la prossima settimana, quindi i nomi li avrei. Il governo ombra, addirittura? Ma certo, che se io mi candido a fare il capo del governo e mi oppongo al governo che c'è, penso che essendo l'ultima ruota del carro, ho capito, non conta nulla, che non c'ha seguito e c'ha pure brutti maglioni, almeno metto il biglietto da visita di una squadra di governo. Hai capito, il Parenza? Governo ombra serve a controllare quello che fa il governo in luce, cioè quello che controlla il governo in carica. Ma chi, no? Ci sarebbe in questo governo ombra, per esempio? Mi faccio un nome. Posso fargli solo un nome perché mi ha autorizzato a farlo. Il ministro dell'economia sarà Antonio Martino. Quello che non è mai stato sotto governo Berlusconi. Capito, Parenzo? No, il governo. È stato ministro della difesa con Berlusconi. Quello che non è mai stato l'economia. Del resto, il mio motto. Qual è? Qual tutto è? Il contrario di Renzi. Cioè? Lui è il rottamatore. Lei invece? Io sono il restauratore. Addirittura. Io credo che occorra restaurare la politica. La democrazia cristiana. Per la classe politica. Il rispetto per un'idea della rappresentanza politica che non faccia del Parlamento il movimento giovanile. In Parlamento ci devono stare i 25enni e gli 80enni, perché il paese è fatto di giovanissimi e di vecchi che sono sempre più vecchi e sempre più attivi. Perché capito, abbiamo Parenzo? Splendidi ottantenni che sono nel pieno delle condizioni e delle capacità. Quindi il mio sarà un governo in cui ci troverete anche qualche ottantenne. Io dico questo a Rotondi, il restauratore. Non ci saranno le primarie, ma qualora dovessero esserci io mi prendo un impegno, e Cruciani registra questa parte di trasmissione, la può mandare all'infinito, io mi prendo un impegno che qualora ci fossero le primarie di Forza Italia, io sarò lì il primo soldato di Rotondi e passerò un'intera giornata a dire vota Rotondi, a volantinare i suoi. È una soluzione più semplice, non so se il contratto lo permette, entrare nel governo ombra direttamente. No, quello non si può. Voglio capire una cosa, cominciamo ad andare su una cosa seria a proposito di programmi. Tutto ma le vogliamo aprire queste case chiuse, la vogliamo legalizzare sta prostituzione, Rotondi? Lei, insomma, mi pare uno, no? Pronto io a questo passo? Sono senz'altro uno che non ha pregiudizi nell'esaminare anche le questioni. No, esaminare, lei a favore o no? Difficili. I bordelli li vogliamo riaprire o no? Confesso di capire le ragioni che portano a preferire una legge meno restrittiva, ma non sono pronto ad accettare l'idea che il corpo della donna possa essere ufficialmente mercificato. Ma tanto succede lo stesso, lei la può pensare come vuole. Questa è un'obiezione che disarma la nostra coscienza. Io continuo a ritenere che possa esserci un'azione educativa. Educativa, forte, dai, su. Porti a superare questa condizione, e comunque lo Stato non può essere complice della prostituzione. Vabbè, non vuole che lo Stato guadagni sulla prostituzione, ho capito, lei è contrario. Rotondi già mi ha dato una delusione. I liberali come Martino sono a favore della prostituzione, della legalizzazione della prostituzione, della legalizzazione delle droghe. Il ministro dell'economia senz'altro potrà presentare un dossier sul calcolo. Secondo diciamo a cadere in questo modo, può darsi che dopo un paio d'anni di governo Renzi saremo costretti a trasfare anche le buone donne, questo spero proprio di no. Grazie, a presto, grazie. Grazie a voi, arrivederci. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara. Bene, dove andiamo? Andrea, Firenze, buonasera. Ciao, buonasera. Dimmi. Complimenti per l'ascolto. No, io posso sentire che te tu chiami Moggi. Io chiamo da Firenze, non posso sentire te tu parli con Moggi, non hai il diritto di parlare. Arrenditi, io lo chiamo. Arrenditi. Lo chiamo come quando mi dare. Quello è un sporco e sudicio quello. E poi un'altra cosa. Scusa, io parlo con chi mi pare, capito? Sì, va bene, però no, a Firenze ci dà noia. Ma non è vero, a te dà noia, che ne sai degli altri? Quello sporco. Te lo dico io, vengo a Firenze. Vabbè, ho capito, ma non è che a tutti i fiorentini dà fastidio sentir parlare Moggi, dai, su. Sai che ha fatto quello sporco? Allo Juventus Club a Prato si è cuccato 3.000 euro, ma ti rendi conto? Ma che vuol dire da Juventus? Lo dico io, quel sudice ha cuccato 3.000 euro. Ma che vuol dire ha cuccato 3.000 euro? Ha preteso 3.000 euro per venire all'inaugurazione del Juventus Club. E vabbè, cioè, ma se gliel'hanno dati, gliel'hanno dati. Infatti. No, poi un'altra cosa, il presidente Lotito è un deve giudicare la protesta, lui è contro la protesta, hanno fatto male. Vabbè, ma lasci perdere adesso il presidente Lotito, no. Perché ce l'ha così tanto con Moggi, non ho capito? Perché gli ha rovinato il calcio, perché la Juventus, è, io sono tifoso Viola, ma la Juventus di quei tempi non c'aveva bisogno di favori. Un bacino grosso e un abbraccio forte, ciao. La Zanzara. Carlo da Macerata, buonasera. Buonasera, buonasera Cruciani, una cosa molto rapida, devo dire, certe volte la sua aggressività è eccessiva, però io faccio riferimento a quando è stato ospite della Gruber e mi devo rallegrare per come è, si è difeso molto bene, mi ha fatto molto piacere, solo che quei tre l'avevano circondata. Un attimo solo. Chi è questo? Non ti preoccupare. Ah, è quel numero di... Sì, buonasera, onorevole De Caro. Chi parla? Salve, sono Cruciani dalla Zanzara, la disturbo? Posso fare una domanda? Onorevole? Pronto? Carlo, allora? Aspetti in linea? Sì. Allora attento, sto zitto. No, dica pure. Allora, volevo dire che quando lei è stato dalla Gruber si è difeso bene. Sì. Solo la disonestà fondamentale, ideologica di quei tre, la domandina per ridicolizzarla su quello che diceva, sul fatto che è uno scherzo, mentre invece la verità è stata detta da Barca in quella circostanza. E parlano di professionalità, di etica, mai una volta con quello che hanno detto di De Benedetti. Barca non aveva motivo di citarlo se non avesse avuto ragione. Quindi è un atteggiamento ambiguo, fondamentalmente distorto, ideologizzato, che tendeva a ridicolizzare lei da parte di tutti. Vabbè, e tre, a poi? No, questo è un fatto grave, punto qui, finito. Va bene, Antonio da Napoli. Antonio da Napoli. Pronto? Sì, non ho bisogno di difese di questo tipo, su, mi so difendere da solo, bene. Antonio da Napoli. Pronto? Sì, dica. Ciao Peppe, buonasera. Buonasera, dimmi. Allora, un complimento a Parenzo, perché è del nord-est, però sa combattere bene. Con te ce l'ho un poco. Perché... Beh, ma che c'entra? È del nord-est, però sa combattere bene. Non sì, ho capito bene. È uno dei pochi del nord-est che comunque combatte la vita. Che so, tutti imbecilli. Vabbè, a prescindere questi, che è una stronzata. Ti volevo dire una cosa. Il signor Salvini, che voi ospitate spesso, e tu specialmente, a volte ti metti da zerbino con lui. Cioè, ti rendi conto quello che ha detto di Sorrentino? Cioè, lui si permette addirittura di criticare gli Oscar. Cioè, non è che ci critica solo il sud, perché per tutto quello che sentiamolo c'è... quello che ha detto, perché ha detto una cosa, sarebbe meglio esportare, non la non mi ricordo cosa. Salvini sentiamo. Salvini arriva Salvini si muove, eccolo. Mi piacerebbe che l'immagine d'Italia del mondo fosse anche altra. Mi piacerebbe che nel mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, passando per la Svizzera, ci fosse anche un'immagine dell'Italia che lavora, che fatica, che non va a ballare, non va a sniffare. Non so se è da Oscar questa Italia, però mi piacerebbe esportare questa d'immagine. Beh, qual è il problema, Antonio? Scusa. Guarda, l'ho ascoltato ancora meglio, è ancora peggio. Cioè, ma noi ci rendiamo conto di quello che dice questa gente? Che cosa dicono? Cioè, loro non ti sentono italiane. Io ripeto, alla morte, alla noia, e Parenzi mi dà ragione, l'ho sentito. Cioè, ma loro, se non si trovano bene e non ti sentono italiano, ma perché non se ne vanno? Un'altra cosa, in questo caso ha detto un'altra cosa. Poi è vero che se uno, diciamo, dice delle cose pessime sull'Italia, non dovrebbe nemmeno pronunciare la parola Italia. Perché cosa dovrebbero rappresentare dell'Italia? Il dio Po, l'acqua, le foci del Po? Cosa dovrebbero rappresentare? Quelli con le corna? L'Alberto da Giussano? Quella roba lì dovrebbero rappresentare? No, dice l'Italia che lavora e non quella che balla o sniffa. Ma che quella è una cosa di spettacolo. È come quando giochi il calcio, che c'è? No, ma lo so. Io sono del Napoli, sei della Roma. Che siete? Voi siamo comunque italiani, anche se ci battagliamo. Ma tu non ti puoi permettere di dire che all'estero, cioè quando ha detto che non doveva citare Maradona, solo se l'avesse vinto un regista della Padana, sicuramente ci sarebbero stati solo complimenti, ma non ci azzecca niente. Ma non perché io non l'ho visto ancora il film, però non ci azzecca niente. Comunque è un italiano che ha vinto e porta comunque l'Italia, anzi ci porta un poco al di fuori della... Antonio, il punto fondamentale è che un film non è che rappresenta l'immagine di qualcosa, è questo, sì, il punto. Scusami. Né di quelli che sniffano, né di quelli che ballano, né dell'Italia, né di Roma, eccetera. È un'opera è un'opera artistica, punto e basta. Paolo da Bologna. Paolo. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Niente, la mia telefonata ieri la volevo fare, ma oggi è tornata attuale perché anch'io voglio parlare del ringraziamento che Sorrentino ha fatto a Maradona. Io credo che i napoletani debbano smetterla di chiamare Maradona come simbolo della loro città, quando hanno una città bellissima con tante cose migliori, a parte le sue cose personali. Vabbè, ho capito, ma se... Aspetta un secondo, volevo dirti, la sera degli Oscar era dedicata al Venezuela. In Venezuela la situazione è peggio che in Ucraina, nessuno qua in Italia ne parlano. Alla sala degli Oscar c'era un tanto di bandiere venezuelane. Sorrentino ha ringraziato Maradona che la settimana scorsa ha firmato un contratto milionario con la compagnia PSU del Venezuela, che è quella del governo, per cui io credo... Cioè lei dice che Maradona non rappresenta, e non parla della questione delle tasse, non rappresenta un modello, diciamo, per la democrazia. Però scusi Paolo, in realtà il ringraziamento di Sorrentino, poi io ieri ho fatto una provocazione, ho detto chi la paga la cartella esattoriale di Maradona, la paga Sorrentino, ma ovviamente era una provocazione perché purtroppo l'immagine di Maradona in Italia è legata anche a quella vicenda del fisco, e a me questo interessa, che poi a Maradona piaceva Chavez, questo mi pare un dato di fatto, e dunque anche Maduro oggi o chi governa in Venezuela. Però Sorrentino ha detto che c'è un'ispirazione artistica, cioè che Maradona lo ha ispirato dal punto di vista artistico, come fenomeno di spettacolo, questo ha detto Paolo, ha capito? Benissimo, ho capito, ma infatti ho seguito. Però se in una serata che la sala degli Oscar dedica con tanto di bandiere al Venezuela, io vivo là metà anno della mia vita, lui vivo là, e in Venezuela adesso stanno morendo centinaia di ragazzi, Maradona si è dichiarato disposto a morire per il governo di Maduro, che non è la stessa cosa del governo di Chavez, perché è una cosa totalmente differente, perché Chavez teneva unita la popolazione, non sono mai successe di queste cose. Adesso le milizie governative stanno sparando sulla gente, ci sono 50 morti, per cui mi sembra che Sorrentino poteva starsene zitto e non parlare di Maradona ancora una volta. Ma adesso, ma che ne sa Sorrentino di quello che di quelle che sono le simpatie politiche in questo momento di Maradona? Su, dai, ma uno si è ispirato, semplicemente ha detto io mi sono ispirato dal punto di vista dello spettacolo a Maradona, cioè dal punto di vista del calcio a Maradona. Non è che può stare a pensare al fatto che Maradona, come dice lei, è un tifoso del governo venezuelano. È ancora a casa, Simo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. L'assurdità è che questi fuoriusciti di Grillo se la prendono con i pesci piccoli. Per esempio Messora, che è il responsabile della comunicazione al Senato dei 5 Stelle, dicendo che guadagna troppo. Ma la posizione è diversa, cioè loro sono deputati, senatori, lui è un responsabile della comunicazione che viene da un'attività professionale. Comunque Battista, sentiamo Battista, che è uno dei fuoriusciti, è incazzato perché Messora prende 3.600 euro, non so quanto è loro 2.005. Mi si consenta, ma su un bilancio del Senato di 3 milioni di euro, sapere che io devo spendere il 37% in comunicazione e la busta paga di Claudio Messora è di 3.600 euro netti per 14 mensilità, più di quella dei parlamentari, posso essere un po' incazzato su questo? Però... Come ti spendi nel letto? Ma vi rendete conto di cosa si discute nel Movimento 5 Stelle, anche oltre alla questione della democrazia, di Grillo, che decide tutto lui, che non lascia Spinelli? Ma non hanno tutti i torti, però. Ma che vuol dire non hanno tutti i torti? Lo sapevano, no, che posso dirti, ti dico perché. Ma chi se ne frega di quanto prende Messora? Dai, su. E allora chi se ne frega? Ma chi se ne frega di quanto prende Messora? Se da statuto i deputati... Ma non c'è, ma Messora non è deputato, non è senatore, non risponde a quelle logiche lì, è diversa la cosa. Che funziona. Se tu no, perché può essere cacciato in qualsiasi momento. Non mi interessa, scusami, tanto chi è stato cacciato sono i deputati dissidenti e non Messora. Ma il problema non è questo, è che se la comunità dei 5 Stelle, questa scientologi pentastellata, decide di darsi delle regole rispetto ai soldi che percepisce dalla politica, quindi anche Messora. Ma quello che c'entra, ma quello là è uno di quelli dell'ufficio stampa, non c'entra nulla. È un ingegnere che magari guadagnava molto di più e sceglie di fare il deputato ed è costretto a guadagnare 2.500 euro. Lo sapevano prima, c'erano delle regole prima. Le regole valgono per tutti, anche chi fa il responsabile della comunicazione guadagnerà come il qualunque deputato dei 5 Stelle. Ma quello chi l'ha detto? Mica era deciso prima. No, scusami, c'è un una regola. Ma senti anche Campanella che dice Messora non ascolta, decide. Mo il problema per questi qua è Messora. Dai, ma su, no, ragazzi, Messora, dai. Che c'entra, Messora? Senti. Perché affonda il becco. Messora partecipa alle riunioni dei senatori e ci partecipa non da osservatore o da tecnico che poi dovrà occuparsi della comunicazione, ma esprime pareri, esprime opinioni, sostanzialmente condiziona le decisioni. Ma questo qua si tratta dell'influenza che può avere una persona rispetto alle decisioni, ma qual è il problema? Ma sentiamo Forchielli, va, il mito Forchielli ieri sera a Piazza Pulita, da Bologna in macchina mi sembrava la Parigi Dakar per arrivare credo a Roma. Andarsi a indebitare ancora per buttare i soldi nel cesso non serve, non so se mi spiego. No, perché noi ci siamo indebitati fino al 133% del PIL e poi dopo questi soldi dove sono? Sono venuto da Bologna in macchina, mi sembrava di fare la Parigi Dakar, capito? Cioè, non riuscivo a star lì con l'iPad, guidare mia figlia, capito? Ti ha beccato. Ma bisogna dire che tra Bologna e Roma non è che c'è anche un percorso tortuoso, ci sono gli Appennini, eccetera, eccetera, Forchielli. Poi, per carità, cioè, va bene, le autostrade non saranno al massimo, però insomma, con grande lentezza sono migliorate le autostrade italiane, con grande lentezza, vabbè, ancora Forchielli. Defiscalizzazione va bene, queste cose qui, però non voglio lo Stato che metta le mani sulla cassa. Questo siamo d'accordo. Altrimenti ci facciamo altri due PIL di debito, ponti a metà, strade a metà e vaffanculo. Quindi questo te lo dico, Pippo, basta sto politichese. Poi su Renzi e su quello che lui dice essere il Jobs Act, che chissà quando vedrà la luce, entro marzo vedremo, banalità assoluta, numero uno. Perché? Una riforma del lavoro che non è quella che sta proponendo Renzi, quella che sta proponendo Renzi è una banalità assoluta, una marchetta fatta con la FIOM che fa ridere i polli. Quella roba è una giobatta assoluta, il job act di Renzi è una giobatta totale. Cioè lei vorrebbe una cosa più radicale? Sì, cioè non sì, lei, pochino. Gli investitori, sì. Diciamo. Ha ragione su questo, è una cosa molto più radicale, no? Questa banalità totale con cioè reddito per tutti, ma non si può licenziare, ma reddito minimo per tutti, però non si può licenziare liberamente. No, non è vero che non si può licenziare ma liberamente. Ma quando mai? Tu sei pure a favore del Jobs Act di Renzi senza manco averlo letto, figuriamoci no, un po'. No, io ho letto nessuno, abbiamo letto tutte le senti lo scontro con Formigoni, senti lo scontro con Formigoni. Che sono uscite, mica altro. Discontinuità totale, però che i politici non tocchino i soldi. Perché se li sputtanano tutti un'altra volta. Ossia, per l'amor di Dio, Formigoni, ci va di può voi toccare o no? Fuori le mani dalla cassa. Il ministro pochi dell'economia può toccare i soldi o no? Non mettere le mani sulla cassa, Formigoni. Il ministro dell'economia lo può toccare o no? A me non me ne frega un cazzo dei tuoi rinvii a giudizio. No, il ministro dell'economia. Ma vai a fare delle cose. La cassa, lei. Ti ho beccato, e da sempre ci ho provato. Non mettere le mani sulla cassa. Va bene, Fabrizio, Trento, buonasera. Pronto, mi stavo quasi addormentando. Dimmi. La Cruciale, ciao, ciao. Dunque, io ho chiamato perché volevo dire tre o quattro barzellette a proposito del governo Renzi e soprattutto non me ne frega proprio una minchia se Maradona non ha pagato le tasse. Ci dovevano pensare allora, no oggi, che sono tutte cazzate che sparcano in giro sui giornali. Ma quello che voglio dire, e che è una barzelletta, è che il povero Renzi, povero Renzi, quello è un ragazzino, quello non fa niente di male, è un bonaccione, ci parla come un bambino di 12 anni, come vuoi reagire di fronte a un bambino di 12 anni? Cioè? Come un altro bambino di 12 anni, tutto dolce, tutto pulito, gentile, carino, ma quello l'hanno incastrato, poveraccio. Ma chi l'ha incastrato? Chi l'ha incastrato? Chi gli ha dato una mano ad andare a fare una visita all'amministrazione Obama? Chi gli ha dato una mano? E chi gliel'ha data questa mano? Chi gliel'ha data? Secondo me, un po' di serra qua, un po' di serra là, un po' di Carrai qua, un po' di Carrai là. Se ne vanno in giro con le uno scassate per Firenze, però. Vabbè, però, serra, però, Carrai, lei ha citato degli amici di Renzi, ma chi c'è amici, dietro? A me direi proprio consigliori. Ma chi c'è dietro secondo lei? Su questo vorrei fare una domanda storica al buon Parenzo, mi hanno detto che è uno storico. Vabbè, non è uno storico, comunque non è uno storico. fine storico. Allora? E allora secondo me Renzi ci farà la figuraccia, però è costretto a metterci la faccia perché lo ricattano, perché quei 20 milioni pesano. Poi c'è il discorso della Kill, c'è il papà ex DC, poi tutti quei soldi che sono serviti per evitare il fallimento. Ma lo sa che io non ho capito niente del suo discorso, Fabrizio, cioè non ho capito nulla. Franco da Agrigento. Pronto? Sì, dica. Senta, volevo dire qualcosa a proposito delle chiese chiuse, va? Sì, dica. L'argomento di apertura della vostra trasmissione. Vabbè, volevo dire questo, sì. Che qualche anno fa, prima di tutti questi trasformismi, la destra avanzò una proposta per aprire le case di tolleranza. I bigotti di sinistra si opposero con tutte le loro forze. Ma la destra, e allora oggi che cosa abbiamo? Abbiamo che i puttani si prostituiscono lo stesso, però sono vietate. Però la prostituzione c'è lo stesso. Sì. Cioè, se questi politici di merda avessero un minimo di dignità, a meno di legalizzarle, Non ci guadagnerebbe lo Stato, si prostituirebbero, avrebbero tutta l'assistenza medica, sì, come fanno nei paesi civili, insomma. Ma lei fa dei discorsi di buonsenso, caro Franco, quanti anni ha lei? 50. Ma a 50? Ma in Germania, ma lo sa, con una motivazione peraltro. Ma lei ci va, puttane? Sì, ci sono andato qualche volta, quando mi è capitato, ma no, qua anche in Italia sì, ma comunque. Anche in Italia, In Germania la prostituzione. Ma scusi, ma lei è sposato? Lei è sposato? No. Eh? No. Ah, no, non c'è andato, non è che c'è andato di nascosto la sua moglie, no? No, comunque io volevo dire, a me quello che interessa sottolineare è questo. Cioè, lei vuole un po' di case chiuse anche in Italia, la verità. No, io vorrei che le case di tolleranza fossero aperte e regolate per legge. Vabbè, ma questo lo vogliamo tutti. Per tutti, soprattutto per le prostitute. Lo so che non vogliono pagare le tasse, però si dovrebbero adeguare. Sarebbe più sicuro anche per loro. Ma le vogliono pagare invece, non è vero che non le vogliono pagare. Grazie! Ottima trasmissione, sempre la migliore. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Attento al DDT, sai? Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Francesco da Siena. Sì, salve, buonasera Frusciani. Io volevo intervenire un attimo sul discorso della prostituzione. Sente? Sì, sì, dica. Sì. Però prima volevo una promessa, volevo sapere se Parenzo è vero o se l'avete sintetizzato al computer. Perché? Perché è un concentrato fantastico di patetici stereotipi della politica, di correctness, di radicarsi, di fare il frocio con quello dell'altri. Ma in che senso, scusi? Guarda, te lo spiego, lui fa il difensore di categorie dalle quali è lontano mille a riparo dall'auto stipendio che prende da Confindustria, fa l'Enea una bella, ma tanto giù nella fossa a lottare per un osso di pane con noi non ci scende. Ma è simpatico, guarda, ti dico, uno non ce la può avere con lui. Detto questo, il discorso della prostituzione è che va assolutamente legalizzata, e le case chiuse, cioè aperte, devono essere regolate dallo Stato per diversi motivi. Prima di tutto ci verrebbe un gettito fiscale non indifferente. Sì, ma guardi, su questa roba qua Parenzo è perfettamente d'accordo. Assolutamente, benissimo, mi fa molto piacere. E poi anche per la sicurezza, per l'igiene, loro stesse credo, come hai detto te, si vogliono mettere in regola, per cui non capisco cosa si aspetta a fare questa cosa qui per la sicurezza. Vabbè, però Francesco, lei ci sta ripetendo questo. Quello che sappiamo ormai da anni, cioè, lei è uno dei tanti, per fortuna, a favore della legalizzazione della prostituzione, giusto? Sì. Va bene. Mirella da Genova. Salve, buonasera a tutti. Dica. Sono molto arrabbiata. Lei è molto arrabbiata. E allora pacatamente dico, ci avete rotto quello che madre natura non ci ha dato. Cioè i coglioni. I coglioni. Allora fate decidere a noi che cosa vogliamo. Si faccia una legge e si indica un referendum. Ma quale dove referendum? Vanno a votare le donne. Vogliono le case chiuse, le donne, bene. Ma che c'entra le donne? Cosa vogliono le donne? Voi siete, scusi, mi lasci parlare perché sono molto arrabbiata. Voi siete i fruitore di questa cosa. Il corpo è nostro. Voi vi trincerate e dite: amica, perché la donna, mi lasci parlare, perché la donna è così più tutelata per voi, però, perché a voi della donna non ve ne frega un cazzo che sia. Voi volete la donna sana, perché così, andando con la donna sana, anche voi siete sani. Mi avete rotto i coglioni, fate come decidere minimo. La donna su che cosa deve fare, non voi, infatti, chiuse le case aperte. Ma infatti voglio far decidere la donna, eh? Io voglio far decidere la donna. Quale se la legge è solo vostra? Tutti gli uomini, che si riaprono le case chiuse, perché così c'è più tutela della donna, c'è più sicurezza. Ma per la donna voi, che non si per vuole. Noi, perché a voi, di noi donne, non viene frega un cazzo, perché tanto è vero che fate delle cose obbrobriose. Allora si faccia delle cose dove la donna possa parlare e decida la donna. Mirella. Allora io dico, donne, indiciamo un referendum, sì. E andiamo a votare solo noi, perché solo, il corpo solo, è nostro. Solo per le donne, io. Solo per le donne le vuole fare il referendum. Assolutamente sì, voi siete i fuitori. Ma lei ha il delirio. Noi ci mettiamo il nostro corpo, Cruciali, noi ci mettiamo da ma noi chi? Corpo. Ma chi glielo chiede il suo corpo? Ma se lei non lo vuole dare, non lo dà, capito? Se lei non lo vuole dare, ma non lo dà. Scusi, ma se si è in schiavitù. Ma quella è un'altra cosa, la schiavitù. Ma che cosa sta dicendo lei? Ma che cosa c'era nelle la case? La schiavitù. Ma allora, scusi, ma certo. vada a riprendere qualche persona che ha fatto questo mestiere nelle case chiuse e vada a parlare con queste donne se ancora ci sono. Quanta sofferenza c'è una donna in una casa chiusa? Perché invece quanta quelle per strada, c'è? Quelle per strada. Stanno benissimo, no? E allora decidiamo noi sul nostro corpo. Donne che mi state ascoltando, piantiamola e decidiamo noi di che cosa vogliamo fare. Decidiamo maschio, noi. Caso, assolutamente sì. Il maschio, voi siete in quel momento, non da uomini, ma da maschi. Da è maschi. Diverso. Da maschi che vogliono fare cosa? Da maschi che vogliono. Scusi, abbia presente, da maschi, un maschio che va a prostitute è un maschio che va a prostitute. Che cosa vuol fare un maschio che va a prostitute? Guardarla negli occhi? Beh, ma non c'è niente di male, penso. Lei pensa che la prostituzione sia da eliminare o si possa eliminare? Assolutamente, ma allora io non sto dicendo questo. Io sto semplicemente dicendo che basta, è ora di piantarla. Ma con che cosa è ora di piantarla? Con che con ora di piantarla? Con questo che voi dite, legalizziamo la prostituzione. Ma certo. Noi siamo d'accordo? Ma non lo so se siete d'accordo, lo deciderà un Parlamento, lo deciderà un Parlamento. Indiciamo un referendum. Ma quale referendum? Il referendum tra le donne sulla legalizzazione della prostituzione. Il referendum certo. In Italia sono abrogativi, innanzitutto. I referendum in Italia sono abrogativi. Ma chi deve decidere? Scusa, se siamo noi che ci prostituiamo, se la donna è vabbè, è, dai, è non persona... diciamo stupidaggini, Mirella, un referendum tra le donne su... perché dovete fare voi le leggi e poi... Ma noi chi? Ma le fa anche lei attraverso il Parlamento? Voi come uomini! Vabbè, ma perché? Perché Cruciani? Aiutami tu, Parenzo, aiutami tu, ti prego. No, ma che parli tu? Ma parli lei, lasci stare Parenzo, parli lei, che è lei che conduce questa trasmissione. Parenzo le fa da spalla. Vabbè, parli ma che c'entra? Lei non lei può parlare. Conduce. Perché non può parlare? Non ho capito. Vede, cara, che discorso, vede. Parenzo certo che può parlare, ma è lei che conduce questa trasmissione. Lasci senta, stare Parenzo. Io sono a favore della legalizzazione della prostituzione, capito? Ma lei che è? Per è le case donna? Chiuse e perché non devo donna? Essere donna per esprimere un parere su questo. Assolutamente sì, caro. No, assolutamente no. Questo qui non è un tipo di lavoro come un altro, è un tipo di lavoro totalmente diverso. Allora lei quando va nelle case chiuse o che non va nelle case chiuse è il fruitore della senta persona. Questo, un attimo solo, Mirella, resti lì, senta Giuseppe da Milano, senta un attimo. Giuseppe? Buonasera, sì, ciao. Dica. Allora, a proposito di prostituzione, io ho chiamato perché volevo dirvi insomma che io spesso e volentieri ci vado. A parte il fatto che pago, insomma, e sono abbastanza contente quelle donne. Beh, ma dove va lei? Dove va prostituta, scusa? Milano, vado per strada, insomma, ci sono pure dei locali e si spacciano, insomma. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Io ci vado. Ci vado e mi piace, insomma, è una cosa positiva. Ah, tra l'altro, ci sono alcune... Sì. Che mi dicono, che ne so, vuoi che ti lascio il numero, insomma, perché non diventiamo un po' più amici, certo. Clienti, ottimo. C'è un rapporto, c'è una cosa che è molto figa questa qua, io ho molto rispetto per lo pago. Ma quando va, servizio... quando va a prostitute per strada, è in macchina spesso? Sì. Ma che succede là in macchina? Come che succede? Che ne so, ascolta la radio. Ah, questa è la chicca, questa, cioè? È veramente una chicca, perché io sono a Milano, sì, e faccio tardi, spesso e volentieri vengo in trasferta, mi faccio tardi, ma mangiare fuori, e poi io devo ascoltare la Zanzara, io vi sento mentre sono a zoccole, no, cioè, capito? Ma che come se, mentre sono lì all'ora, allora, a parte il fatto che lei parla mi dà fastidio certe volte, perché devo sentire la puttanata che dice Parenzo, perché ne dice tante Parenzo, a dire il vero, ma, cioè... Così, allora c'è, cioè, non capito, lei quando va a Troia ascolta la Zanzara, questa assolutamente è la... sì, cioè, è un, cioè, ma anche mentre in macchina si va a Zanzare si ascolta, si va a puttane si ascolta la Zanzara, è un must per me, cioè io sto lì, aspetto intrepido, insomma, che inizi la replica della Zanzara, perché se volentieri non posso sentire durante la sera, no? Io la devo ascoltare, io devo ascoltare Cruciani mentre una gentil donna, insomma, mi fa una fallazio. Capito Parenzo? Bellissimo. Capito Parenzo? Beh, sì, bene, diciamo bene, bene. Mirella? Che dice Mirella? Appunto, ma guarda che simpatico questo, ma magari avrà la famiglia, avrà la moglie, i figli. No, Mirella, però mi va, scusi, va a scopare, mentre che scopa che la gentil donna le faccia qualche cosa, lui ascolta la Zanzara, il massimo, è il massimo tesoro, vieni qua che ti bacio. No, ma di che cosa stiamo parlando, scusi, gente? Ma di che cosa stiamo parlando? La prostituzione è dolore. Voi siete convinti che le prostitute sorridono e sono simpatiche, e per forza, perché nel vostro immaginario collettivo erotico che la prostituta sia simpatica, nella prostituzione c'è dolore, sofferenza, e piantiamola un po' di dire per lei. A parte il fatto che la prostituzione potrebbe essere anche per lei, insomma, ci potrebbero essere le case chiuse dove lei va a sfogarsi invece di chiamare la Zanzara, Giuseppe Cruciani, ma si levi, ma si levi, non ha cominci, risponde così, in America, lei non ha, risponde così, lei è, perché non ha argomenti. Come non ho argomenti? Io sono pure amico di tante zoccole, insomma. A me piace. Ma certo, vedi come le chiama, sono zoccole? Lei è proprio amico di queste zoccole. Ebbene, allora perché non invita una di queste zoccole a mangiare qualche sera con lei, se la porta un po' in giro, la presenta agli amici e dire: questa è una mia amica, perché ci va di sera? Guardi, che non lo dice nel senso, ma io non lo dico nel senso dispregiativo ma io non lo dico nel senso dispregiativo del termine, io ho amiche, ma mi sono zoccole, se la porta a casa un po' in giro a braccetto questa donna, presentandola alle amici alcune, dicendo, fermi tutti, fermi tutti. Danzano come zanzare. Parenzo, per favore, quando sei in trasmissione puoi evitare di parlare con qualcun altro al telefono, perché c'è il microfono aperto, grazie. L'hanno chiamato sotto. Ma chi se ne frega? Cioè, però mi hanno chiamato sotto. No, ma tutto in diretta no, perché. Parenzo, fai ridere. Appunto. Abbiamo con noi Roberto Dal Bosco, autore di un libro che si chiama Incubo a 5 stelle, Grillo e la cultura della morte, vicentino, molto giovane, anno 1978. Buonasera. Buonasera. Dal Bosco, io ho fatto sentire una conversazione fantastica tra un casino. Scusi, perché secondo lei Grillo ha la cultura della morte? Perché vuole sta con un signore che vuole la decrescita e vuole ridurre la popolazione terrestre di 6/7, quindi diciamo così che non sta esattamente dalle parti della vita. Addirittura, ma solo per questo? Solo perché vuole la decrescita, secondo lei, la cultura della morte? Ma la decrescita è morte, se lei pensa che deve diminuire il cibo che dà ai suoi figli, quello significa in molti casi uccidere i figli, come avviene per esempio quando c'è una crisi economica, in molti paesi del terzo mondo si sviluppano carestie e queste cose qui, insomma, è una cultura della carestia. Oltre che della morte. Una cultura cioè se ci fossero i grillini al governo saremmo fottuti, saremmo spacciati. Beh, direi di sì, io ho dato un'occhiata anche alle proposte di legge, per esempio vogliono impedire le prospezioni per la ricerca di idrocarburi nell'Adriatico, lì c'è tutto un ben di Dio che deve essere tirato fuori, e loro invece no, non si può perché c'è l'ambiente prima dell'uomo, no? Ecco, questa è la morte. Però scusi un attimo, perché lei dice che sono ispirati dal demonio? Ma io non ho detto questo, poi è uscito questo titolo in un giornale locale . E vabbè, detto questo, essendo un credente, poi lo zampino magari c'è sempre. Cioè, c'è, secondo lei dietro Grillo c'è lo zampino del demonio? Il diavolo. Beh, Non so, c'è qualche briciolina che ha lasciato Pollicino Casaleggio nel percorso, che mi fa capire che forse un po' gli piacciono questi temi, insomma. Cioè, secondo lei, alla fine, Casaleggio è il diavolo, o comunque è ispirato dal diavolo? No, assolutamente no, gli piacciono certe teorie, certi pensieri, certe correnti, diciamo così, dove non lo chiamano il diavolo, lo chiamano Lucifero, lo chiamano Prometeo, la funzione che fa è la stessa, è il portatore del fuoco, il portatore della luce, e, insomma, è tutta una cosa anche abbastanza concreta, tangibile. Lui ci dedica il finale di Siamo in guerra a questo inno a Prometeo, no? Prometeo, il video Prometheus, dove ci sono simboli di ogni sorta che saltano fuori, eccetera. C'è questo cotè, che poi vabbè, non è che sia così patente, ma un po' lo è. Però comunque lei ha paura dei grillini, perché i grillini portano una cultura della morte, della decrescita, della distruzione, una sorta di luddismo, come si diceva un tempo, no? Sì, è un luddismo però su forme diverse, perché è un luddismo che finge di essere elettronico, finge di essere tecnologico. Invece questi non sanno usare bene il computer, basta guardare il sito di Grillo, fa schifo, è fatto apposta per delle persone che non gli interessano. Cioè, io immaginavo qualcosa di più raffinato. Ma sono dei mezzi matti, secondo lei, tra loro, i militanti più fedeli, i parlamentari, sono dei mezzi matti, dei pazzoidi? No, assolutamente no. Io dico, parlo dei deputati, cioè, vuol dire, il popolo che vota Grillo esprime una protesta legittima, chiaramente incattivita dal mezzo che è internet, che ci rende tutti più cattivi, certamente anche più antipatici. Scusi, per curiosità, caro De Bosco, ma lei è dal Bosco, ma lei è contrario all'aborto, per esempio? Sì. Io sono per la vita sempre. Sì, dunque lei è contrario all'aborto, lei proibirebbe l'aborto in Italia? Io credo che l'essere umano sia una risorsa. Vabbè, d'accordo, ma lei proibirebbe l'aborto? Proibirebbe l'aborto? Sì, assolutamente sì. Ma come si fa a proibire l'aborto dal Bosco? Come si fa a proibire l'omicidio? Ma no, ma dai, su, proibire l'aborto, dai, su. Ma si tratta di rispettare un attimo una religione. E gli omosessuali, secondo lei, che cosa sono? Gli omosessuali sono delle persone che, come tutti noi, sono dei peccatori. Peccatori, vabbè, io volevo parlare di Grillo, comunque, che è uno degli omosessuali che chiama Busoni. Non so se lo ricorda. Sì, me lo ricordo. Dal Bosco, comunque, non può dire che sono dei peccatori. Secondo lei sono addirittura dei sodomiti da condannare, come fa l'Uganda. Oh, io volevo parlare del libro. No, ma mi dica cosa pensa. Non faccia come i politici. Non faccia come i politici. Mi dica cosa pensa. Ho scritto un libro su quello. Sono preparato. Oddio, su quello. Dal Bosco. Sono per strada. Dal Bosco, lei è un giovane della classe 1978. Anzi, non più tanto giovane. Sì, io sono nato nell'anno dell'aborto. Esattamente. Nell'anno dell'aborto. Non vuole l'aborto perché pensa che debba essere. 6 milioni di persone morte. Vabbè, ma questa è una stronzata. Dai, gli omosessuali. Lei dice che gli omosessuali sono dei peccatori, ma sono malati secondo lei? Io penso che gli adulteri sono dei peccatori. Cioè lei condannerebbe l'adulterio, metterebbe come reato l'adulterio? L'adulterio non come reato, no, scherzando, come reato civile. E l'omosessualità? Come peccato, sì, il peccato sì, non il reato, un peccato. L'omosessualità non può essere un peccato. Cioè l'Uganda. Se non è un reato, mi scusi, è sicuramente un peccato. Un peccato. Sì. Non è che ci vuole, cioè è quello che dice la Chiesa, che diceva la Chiesa fino a poco fa. È un peccato, è una malattia anche l'omosessualità, così per sapere, per inquadrare. Guardi, così come tante, sì, diciamo così, cose eterosessuali, tante pulsioni eterosessuali, la Chiesa dice che è non la Chiesa, quello che pensa lei. Quella che pensa lei, che sì. Io cerco di pensare quello che c'è la Chiesa, è la Chiesa che può essere un po' confusa ultimamente. Ah, perché Francesco, lei non ama troppo Papa Francesco, mi sa, eh? Beh, non so, ce n'è anche uno di riserva in questo momento di Papa, però si devono un attimo decidere, secondo me. È troppo, diciamo, socialista, secondo me. È un po' aperto. No, guardi, io sono rimasto parecchio colpito da quella scena delle colombe, sì, no, che vengono lanciate fuori, salta fuori il corvo, poi salta fuori il gabbiano, no, le attacche. Era Casaleggio, no? Era. Colpito. Perché l'ha colpito? Ma perché il corvo è sicuramente una... l'illustrazione di un fatto che è successo recentemente, c'era il corvo, c'era quel maggiordomo che portava fuori le cose. Il gabbiano invece ha una simbologia molto più pericolosa, perché il gabbiano è una bestia che viene dal mare, che è una cosa a cui si riferisce l'Apocalisse. Quindi guardi, tra il corvo e il gabbiano, diciamo che non è stato esattamente una volta con Papa Benedetto e Papa Giovanni Paolo, al massimo la colomba tornava dentro. Capito, stato, no? Capito Parenzo. Allora, Mirella, che vuole dire a Giuseppe che quando va a puttana ascolta la Zanzara? Stavo ascoltando. cosa voglio dire a Giuseppe, mi scusi? Cosa vuole dire a Giuseppe? Ma su in merito a che cosa, mi scusi? Ma, Giuseppe, mi aiuti lei, mi aiuti. Ma è possibile, una TSO veloce questa signora, veloce, come, veloce. Scusi, prego, non ho capito. Una cosa? TSO veloce, signora, vada anche lei. No, lei ci va già, io non vado, non ho nessuna intenzione e di andare. E si perde tanto, si perde tanto. Ecco la differenza che c'è. Vabbè, adesso non è che lei può, non è che lei può spingere una persona, dice, ad andare a prostituire. Almeno una volta nella vita cruciale qualcosa bisogna provare. Ma ho capito, la signora Mirella non vuole andare, non vuole. Allora non demonizzi chi ci vada, perché ci vanno ugualmente le persone. Non deve demonizzare chi ci va. Io non demonizzo nessuno. No, demonizzava un po'. Va bene, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo domani alle 18:30, dai. Ma amore, Cruciani, sa quanto le voglio bene. No, Cruciani, lei è brutto. No, lei non li voglio bene. Il Parenzino mi piace tanto. È un topolino. Porti anche lui a cena, dai. Sì, dai, tutti e tre. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.